Proprio a riguardo di ciò, proprio su questa cosa, noi radio, sono contento di dire che faremo una serie di puntate sulle varie declinazioni dell'antifascismo, di ciò che ci caratterizza come antifascisti, in quest'epoca, nell'oggi, e affronteremo tanti temi dall'antisessismo fino a cosa vuol dire essere studenti antifascisti oggi, passando per un'analisi di quelle che sono le dinamiche capitalistiche che ci circondano e che investono totalmente la nostra società, per arrivare poi, correggimi Pica se sbaglio, perché questo ormai credo sia una tradizione soprattutto nei nostri cuori, per arrivare a ridosso del 16 marzo, che faremo una puntata dedicata proprio al racconto e alla memoria precipua, direi, del compagno Dax. Assolutamente, è un programma molto diverso da Zona Rossa perché è veramente serio, veramente interessante. L'ultima volta il pubblico era invisibilio per la voce di Norberto perché è una voce straradiofonica che però si spreca poco, dobbiamo dire si spreca poco, viene giusto per... Confermo tutto. conferma tutto, dalla regia Gioia conferma tutto, viene nei momenti giusti secondo me, anche adesso per fare questa cosa che tra l'altro non avevo registrato quindi dopo la ripetiamo, facciamo una specie di rifacimento. Volentieri. Volentieri, esatto. Quindi che dire, questi sono gli appuntamenti, c'è una sezione nei podcast che è programmi speciali, quindi ritroverete anche la puntata su Dax che è stata caricata di recente, di qualche mese fa, e troverete i nuovi speciali che ci sarà una sezione interamente dedicata a questo pacchetto di podcast che stiamo preparando. Esattamente. Radio ZM spinge di brutto, se avete qualsiasi cosa da proporre fatevi avanti, mandateci messaggi, scriveteci anche privatamente, noi siamo qua. Si vocifera, adesso dobbiamo capirlo, io lo spoilero, poi vediamo, del 14 di febbraio, che è una domenica. Noi boicottiamo Ai San ai ai. Valentino, ci fa schifo San Valentino, quindi tutti in radio, tutti e tutti in radio. In qualche modo troveremo una formula, poi se in presenza o meno, con le limitazioni che ci sono, capiremo. Però sicuramente sarà online, sarà ascoltabile dai nostri canali e sarà un invito, sarà un invito. Amici, amiche, fidanzato, sposato, state tranquilli, ciò che succede in radio rimane in radio. Esatto, poi esce fuori registrato in formato podcast, però fa niente. Comunque andiamo avanti, io direi che sinceramente lascio la parola a Gioia, visto che è entrata in zona rossa. Chiedici, cioè dici Gioia, perché sei qua? Ma io sono qui un po' per cazzeggiare, sinceramente mi sembrava il luogo più adatto per Madonna, farlo. quanto hai ragione, va Che belle benissimo. parole. Sì, ovviamente ho finito tardi al lavoro, avevo bisogno di sgranchirmi, devo alzare la voce, dovevo sgranchirmi le gambe, quindi devo limonare il microfono Più praticamente, dritto, più dritto, così. esatto. Ok. E niente, quindi mi trovo qui per cazzeggiare. Noi accogliamo tutte le persone che si sentono in questo stato d'animo, che hanno bisogno di cazzeggiare, perdere tempo. Assolutamente. Siamo qua. Venite qui, È il Zona programma Rossa perfetto. Infatti, è lo spazio l'invito è stato migliore. rivolto anche giù in sala perché un po' di gente che entra e esce la troviamo. Quindi probabilmente arriverà qualcuno. Forse anche l'altro speaker di questo Sì, ma programma. Poca. poca, poca, sempre nei limiti imposti dai DPCM di Giuseppe Conte, eh? Assolutamente. Aspettiamo il secondo speaker, a malincuore, per me no, perché mi fa impazzire. Mettiamo la vecchia sigla, quindi Zona Rossa tutto per voi, a fra pochissimo. Thank you. gamba tesa, così andiamo avanti. Lo andiamo a prendere, lo andiamo. Sarà in fila alle poste, sicuro. È caduto, niente, non possiamo chiamarlo. Che cane, l'ideatore della domanda, colui che ci ha ispirato più di tutti e tutte per la domanda della puntata, non risponde evidentemente. Io non ho parole. Però intanto arrivano messaggi, forse meglio, io esorto qualsiasi persona mi conosca adesso a non mandarmi più messaggi sul mio numero privato, ma di mandarli sulla chat della radio, perché sennò io impazzisco. Quindi non risponderò per circa un paio d'ore, sappiatelo, e mi raccomando, Telegram, Radio Zam, _ chat. Gioia. Qual è l'ultima cosa che hai spedito per posta? Allora, l'ultima cosa che ho spedito per posta è stato a settembre. Attenzione! E ho inviato un libro per l'università a una mia collega che sta in Germania. Ok, quindi ti sei recata fisicamente alle poste, yes. Hai impacchettato la cosa, fatto tutto. Uè uè. Ottimo, ottimo. Sì. Quindi ce la liquido così, vabbè. Adesso tu sceglierai chi chiamare. Usti. Intanto io e Norberto andiamo avanti a chiacchierare, sì. Puoi pensarci, hai tipo... tutta questa bellissima canzone di Paul Kalkbrenner che salutiamo, grazie. Sì, sì, sì, no, tieni più basso, grazie, sì. No, puoi metterti lì con i piatti, tranquillo. Grazie. E andiamo avanti, zona rossa, intanto abbiamo perso uno speaker per strada. Paul, non toccare il microfono, per favore. Paul, dai, per favore. Tu sei un DJ, fai il DJ. Paul, grazie. Sì, no, quella puoi prenderla, l'altra quella blu, dopo. Scusate, Paul Kalkbrenner è entusiasta di questa radio perché non ne aveva mai vista una così bella e tocca tutto. Scusate se ci saranno delle interruzioni, ma Paul è un ragazzo entusiasta. Comunque, andiamo avanti con Zona Rossa, il programma che telefona alle persone. Aspetta, c'è Gioia che sta boccheggiando come un pesciolino, non capisco cosa mi sta dicendo. Sto suggerendo... Ah, stai suggerendo chiamare, quello quindi... che avevo suggerito, esatto, io prima, quindi... perfetto. Parlaci di questa persona, Gioia, così... Allora, questa persona... Senza farne il nome, cioè, no, ovviamente. Ovviamente. Allora, questa persona è molto vicina a me. Avvicinati così riesci a parlarci più vicino che tu. Allora, dicevo che è molto vicina a me Lorenzo, in particolar modo. E comunque ovviamente è un personaggio VIP, lo conoscete tutte e tutte, e direi che appena risponde sentiremo la sua voce. Benvenuto nel servizio, no. Di non risponde perché ho chiamato io, ho detto no, sarà un accollo per il cane. Non era la sua voce questa. Non era la sua voce, non esatto. Era la sua voce, assolutamente. Vabbè, niente. Ci riproveremo. Ci riproveremo. Okay. Non parte bene Zona Rossa stasera, già no, due telefonate, no, due pacchi. Non quanto va bene. Sfortuna. Però magari ci richiamano, magari adesso vedete la telefonata e ci richiamano, anche perché sappiamo che è attivo e vivo, l'abbiamo visto scrivere. Esatto. Quindi vi ricordiamo sempre la chat di Telegram. Norberto, io direi di andare a prendere colui che ci ispira davvero tanto qualsiasi cosa. Quindi di solito ci salva il anche, nostro ideologo. Ci salva anche, esatto, dalla luce e ci riporta al buio. Sono esatto. D'accordo. Attenzione, è arrivato l'altro speaker che si ricorda che c'è. Ciao Guglielmo. Iniziamo alle 6:30, iniziamo alle 5:30, iniziamo alle 2. Iniziamo domani. Pronto? Ehi, buonasera, Gigognini. Buonasera. Ma come sta? Bene, bene, voi? Bene, c'è Paul Kalkbrenner che è venuto a trovarci, oggi c'è un DJ set a Zona Rossa. Sì, tra l'altro Cigo chiede di te, non ho capito perché non sei venuto, cioè dice, ma dov'è Cigo? Where is Cigo? Quello che mi compra sempre... No. Quello che li compra sempre? Niente, cosa stai facendo, okay. Caro? Tutto bene? Bene, tutto a posto, sono tutto rotto dopo l'allenamento di ieri. Che allenamento di cosa? Mi sono allenato, io ho ripreso ad allenarmi. Ah, ha fatto finta di fare attività fisica, come al solito, sei sempre un chiacchierone. Ma quindi ti alleni per sparare cazzate? Sì, ma quello davanti vabbè, allo no, quello sono già un campione, potrei non aver bisogno di allenamento. Ascolta, adesso andiamo piano con i complimenti, questo lo possiamo dire magari noi, esatto. Comunque, sei contento che Guglielmo ha deciso di non fare più Zona Rossa ed è venuto Norberto al posto suo? No, in realtà no. Non sei contento? Beh, no. Grazie, amici, poi... Ah, perché era no, lui... perché no, ma più che altro perché voglio un programma da solista di Norberto. Da stagista posso dire che è quasi sprecato. Tutti, per Zona tutti pazzi per Norbi. Tutti pazzi per Norbi, guarda, lo faccio. Non domani. Sarebbe male. Faccio già la pagina finale domani. Assolutamente. Comunque, sì, ti prego. La social dove media la gente manager... chiama da casa per le dispute amorose. Esatto, la social media manager è chiara, ovviamente. Sarà un podcast Instagram. Chi se no? Chi esatto. Se no. Comunque, a parte... No, non gli scherzi, no, perché è tutto serio quello che stiamo dicendo. A parte le cose serie, la cosa importante di questa puntata è la domanda in questione. Quindi voglio vedere se tu sei un po' un boomer o sei ancora un pischellino, insomma. Qual è l'ultima cosa che hai spedito con le poste? Mamma mia! L'ultima cosa che hai spedito? Penso di dover tornare a quando avevo 6 anni. Vai, non mi ricordo, forse una cartolina, ma non me lo ricordo neanche. Quindi c'è un vago ricordo, nel senso che non è, questa pratica non ti appartiene. No, ho sempre usato l'elettronica, niente, digitale, è un figlio cose. Della nuova sono generazione. Una persona molto poco. Per citare proprio Norby, in suo onore, sono una persona poco romantica. Madonna. Confermo che è mia, è proprio una frase da me. Confermo. Sì. Questa frase che hai detto su di te facendo tutta questa autocritica in realtà è molto romantico da parte tua. È vero, è vero. Questa volta devo dire di sì. Sai, quindi che... si sta creando un paradosso di quelli incredibili. Ma cioè, pensa che sono in radio con Norberto e Gioia che non spiccica parola. Gioia, vuoi dire qualcosa? Ciao Gioia. Ciao Cigo. No, è che io sto cercando la nostra prossima vittima, per questo sono un po' silenziosa. Cigo, devi capire che Gioia è venuta qua a cazzeggiare. Ah, vabbè, non dobbiamo aspettarci proprio... Lo faccio proprio... sempre anch'io e lo faccio anche da stagista non pagato. Non dobbiamo... Ma ascolta, non diciamo queste cose, per favore. Noi ti riempiamo di soldi ogni volta che esci di qua, non ti stanno in tasca. È vero, costa un po'. Cigo, però, vabbè, Cigo, un po'. Pubblicheremo sul sito di Equitalia il tuo salario, che è vergognosamente alto. Beh, è vero, sì, io... Una marea di soldi da un centro sociale. Tipo i calciatori. Sì, ma... esatto. No, però io faccio fattura. Mi è sfuggita una cosa. Cos'è che ti stai allenando? Pugilato. Pugilato. Pugilato circa, dove sì. Dove era quest'estate, quindi, questo qua? Scusa, quando facevamo... mi sento malissimo. No, niente, ti dico, tranquillo. È tutto voluto. Ok, ottimo. Molto zona rossa. Molto zona rossa, assolutamente. Cigo, grazie. È stata una telefonata anche troppo lunga per il nostro standard con te. Adesso riscaldiamo un po' l'ambiente e poi ti richiamiamo più tardi perché c'è Gioia che ti voleva parlare, non so di cosa. Ok. Grazie, Cigo. Ciao, presto. Maiale. Ciao, Mori. Ah, non so se rispondo. Vabbè, ciao. Mamma mia, che schifo. Che... Intanto il prode Guglielmo è tornato a calcare i microfoni di zona rossa. Comunque queste cuffie sono terrificanti. Capisci una mazza. Guglielmo morbidissimo. Comunque, cioè, chiunque fa la zona rossa. Chiunque. Sai che ha detto sono venuta per cazzeggiare. Ovvio. Avevo voglia di cazzeggiare. Ovvio. E quindi da chi che viene? Da noi. La zona rossa. È stata invitata anche Benedetta, ha detto sì, passo passo prima degli allenamenti, che sono alle 7:30, a 14 minuti per presentarsi. Io qui dentro vedo solo Paul Kalkbrenner e Gioia. Io non vedo nessun altro. Vi prego, abbassate il volume delle mie cuffie che sto per morire con... Le stava usando Gioia come altoparlante. Esatto, ma si sentiva che era un altoparlante effettivamente. Ma cioè, comunque veramente siamo la V1 della radiofonia mondiale. Cioè qua tutta la discarica, partono le peggiori pandemie. Oh, tu sei una discarica. Ma insomma, tu sei nella discarica. Discarica, prendi cui... una sedia e vieni qua vicino, così ci passiamo a distanza molto ovviamente safe. Ovviamente igienizzando i microfoni, però almeno riusciamo a fare una puntata in cui compari e non cazzeggi e basta. Comunque, cioè, dato è sempre bellissimo perché io pensavo, oh cazzo, no, faremo una puntata solo di Lorenzo, vabbè, dai, una cosa bella, intima, come io e lui, come all'inizio, e poi invece no, Porto di Mare, sempre un sacco di gente. E penso che stia salendo altra gente. Comunque, stiamo andando a chiamare una persona che oggi ci ha dato dei secondi. Attenzione, non secondi. Siamo i primi. Cosa vuol dire? Ho capito. Un programma radiofonico. Tu non apri Facebook da oggi pomeriggio. Oh cazzo. Dobbiamo chiedere lo scotto. Ma non guarda che lo scotto. Questa cosa è gravissima. È raccontata alla SNAI la chiamata dalla zona rossa. Grazie. A quanto era quotata? Esatto, non più di due. Era così quotata che non appariva sito a Belloni. Vabbè, l'hai chiamata perché sei una grande provocatrice. Esatto. Terrible, Maya, terrible. Solo con noi, Lorenzo. Anzi, solo con te al telefono, Lorenzo non riusciva a respirare dalle risate. E tu ci hai messo al secondo posto. Come hai fatto? Ciao Maya. E come ho fatto? Sono ribelle. Cioè, che devo fare? Allora qua c'è un conflitto di interessi. Parole velate ma precise, ma molto precise. Quindi raccontaci, tu hai fatto una puntata, hai creato una puntata di recente. Beh sì, sta anche per andare un'altra. Sì, l'ultima puntata che di cui mi sono occupata è stata su post porno e porno terrorismo. La prossima puntata sarà invece su fat shaming, grassofobia e body positivity con Vita di P. Cioè, storia. Noi riusciamo a regalare uno spazio pubblicitario agli ribelli dentro Zona Rossa, siamo veramente romantici. Questa cosa mi emoziona, mi commuove. O facciamo il contrario. O facciamo il contrario, attenzione. Comunque, Maya, che si dice in Puglia? Che si dice? Che qui c'è un tempo di Cristo, ci sono 21 gradi, il sole vola alto, ma siamo arancioni. Siete arancioni! Ai ai ai! Una delle quattro arancioni italiane. Sì, sì, siamo tra le quattro capitali, quattro vice capitali proprio, siamo noi. Quindi tecnicamente tu non puoi neanche andare in giro, cioè, senza autocertificazione. No, tecnicamente no, il cazzo, io posso andare in giro con l'autocertificazione. Non puoi lasciare il tuo comune. Ma solo Maya può andare in giro. Solo io però. But non si può muovere dal comune di residenza. Ah. Ma scusatemi, ma invece facciamo un'azione di servizio pubblico. Quali sono le altre regioni arancioni d'Italia? Allora, c'è l'altro ieri al telegiornale, tutto il giorno l'ho sentito, non mi ricordo più. Grande. L'Emilia Romagna, se non sbaglio. Olè. Aspetta, adesso mi consulto con l'esperto Gesù vi ha punito. Covid di Zamari. Aspetta, Maya, stiamo chiedendo a Paul Kalkbrenner che ha scritto l'ultimo DPCM. Esatto. Sì, grande. Sì, sta imparando l'italiano, quindi sta facendo fare un po' di... Ma lo sapevo anch'io, l'ha scritto la Samtara Gallipoli, sta ancora lì a fare after dal 2008. Brava, tra l'altro non dorme da quella data. Quindi... Tu pensa quanto... Ma lo credo bene, sì, c'ero anch'io in quella data col Paul Kalkbrenner. Dunque, io, Lorenzo e Mischeta. Esatto. Norberto, Paul ti ha detto quali sono le regioni? Vai. Paul me l'ha detto. Quella è il Trentino Alto Adige. Mamma mia, quanto è forte. In particolare la provincia autonoma di Bolzano. Ecco, sì. Poi la Puglia. Certo, immancabile. Anche il centro Italia purtroppo coinvolto con l'Umbria. Ah. E per tornare alle isole, entrambe, sia la Sicilia che la Sardegna. Però stavi leggendo, secondo me, un pochino. No, me l'ha detto Paul Kalkbrenner adesso. Sì, sì, sì. La pronuncia un po' tedesca. In diretta. Sì, sì. Sì, perché è qua a fare un DJ set. Sì, no, quello lo fa per gli 11 anni di Zam. Ah, si è portato avanti. Perché sono già quasi siamo dentro gli 11. No, perché ragazzi, c'è sempre la solita diatriba. Uno festeggia l'anno che ha concluso. Esatto. Quindi lui sta già festeggiando il nostro 11° anno di vita. Ma certo, il terzo giorno dell'11° anno di vita. Certo. Quarto giorno. Bello. Comunque, Maya, c'è una domanda che vorremmo farti, che è la domanda cardine di questa puntata. Che è stata... immaginavo. Esatto, qual è? Esatto. La domanda è: qual è l'ultima cosa che hai spedito con le poste? Con le poste. Sì. Tutta la mia vita. Cioè, l'ultima cosa che ho spedito con le poste è stato un trasloco da Londra allo Santos. Madonna! Porco cazzo! I mobili, Gioia, un trasloco. Sì, ha traslocato sì, spedendo le cose. Di pacchi. Otto pacchi. Madonna, cosa c'erano nei pacchi, scusate? Vabbè, droghe di varia natura, vabbè. Poi? Sex toys. Si suggerisce che erano droga, sex toys e poi? Delle lucine bellissime che hai messo in camera anche, secondo me. Beh, no, sì, c'erano le lucine, c'erano tutti i sex toys, c'erano tutte le Polaroid, c'erano i vestiti, c'è qui con me, un bellissimo cartellone originale che arriva dai movimenti per i diritti civili delle Black Panthers, eccetera, eccetera, che fa "Be careful with each other so we can be dangerous together", che poi è diventato anche l'immagine delle narrazioni di degenerazione, che è una bella cosa che abbiamo fatto con il nostro collettivo di genere, così spoileriamo anche quello. Ma spoileriamo tutto, assolutamente. C'è Gioia che ti voleva dire una cosa. Vai Gioia, vai. Niente, ciao Maya. Ciao Gioia. Tornata alla maledizione di Gioia Zona Rossa, non ce la fa, nemmeno stavolta riuscirà a dire delle cose sensate. No, ora si sforza e ne dice una. No, non ce la fa. No, non gliela fa, dai. Tra l'altro Maya, io ti sento dalle cuffie di Lorenzo, che è qua vicino a me. E quindi, non avendo delle cuffie mie addosso, ti sento un po' per c'è metà, un po' così. Purtroppo. Vabbè, però mi senti col cuore. Oh, eccoli. Però mi senti col cuore. Oh, tata, sì. Figa, manco mi senti quando ti dico le cose dolci, però, che cosa? Mi spiace. Tutto fantasticissimo, ma va bene, Maya, ma quindi tu quando è che storni al nord? Guarda che c'è... Madonna, c'è non mi dite così che piango. Piango, raga, sto cercando da un anno di tornare a Milano, letteralmente da un anno, cioè oggi faccio un anno che ho comprato il biglietto per l'8 marzo. Figa. E dell'anno scorso. E io torno a Milano quando potrò spostarmi. cioè quando avrò un contratto di lavoro, un valido motivo che mi faccia spedire lì. Raga, ma, se facessimo un contratto da stagista Maya vero, la facciamo diventare la vera stagista di Zona Rossa, poi alla fine fa solo le ribelli, è tutta una copertura fake. Esatto. Però, ma cioè, a me sta stra bene, raga. Dai, cioè, ma fate tutti i titoli che volete. Esatto, Lorenzo diventa il tuo datore di lavoro e io collega finto. Tutto malissimo, certo. Un cartonato di merda. Io faccio la tua social media manager. Cos'è che fai te? Tendenzialmente schifo. La social media manager. Giusto, la social media manager. Da. Le cose cringe che sono io, che cazzo gioia. Faccio? Questa è la domanda. Tu che cazzo fai, infatti? E io che fai? Io faccio solo la stagione. Io porto il caffè in radio, raga. Madonna, sarebbe bellissimo. Ora ci vorrebbe proprio un bel caffè. Maya, grazie, sì. Ti ringraziamo. C'è Paul che spinge per andare avanti a mettere della musica. Quindi adesso ti prenderai Paul Kalkbrenner. Giusto. A sto giro non chiediamo la musica, la mettiamo noi. Grazie mille. Dai, e ci sentiamo alla prossima. Ma grazie a voi. Ma figurati. Ci sentiamo alla prossima. Un bacio. Ciao. Tu hai pensato a chi chiamare adesso? Sì, che hai pensato. Avevi l'alternativa. Adesso arriva Paul, poi ci pensiamo. Oh, ma Norbi, devi dire qualcosa. Riproviamo. Il numero di prima. Il numero di prima, ok. No, attenzione. Quindi tu non c'eri, mi dispiace. So, mi avete già sostituito. Ci devo fare. Quindi? Adesso quello che devo dirvi tra poco ve lo dirò dopo la pubblicità o Kalkbrenner. Ma noi non abbiamo la pubblicità, siamo alla di movimento, cretino. È dopo Kalkbrenner. Era un modo. Kalkbrenner che si chiama pubblicità. Era una figura retorica. Ah. We'll be right back. Allora, sperando che adesso la situazione migliori, Guglielmo, tu riesca a dire sette parole di fila senza scoppiare a ridere? No, non ce la faccio, è impossibile. Ma comunque è una cosa particolare, che proprio devono essere gli ormoni che secerniamo io e te, Lorenzo, perché lei alle ribelli va dritto, spedito, fa... Ma non è vero, conduce da sola. Ma non è vero, si vede che non ascolti un cazzo, Guglielmo, perché quando... No, perché se tu ascoltassi davvero, quando magari sono io la speaker, io spero un sacco di stronzate comunque. Ma quello non era dubbio, però riesce a parlare, capito? Invece Zarosa di carte la maggior parte delle volte esce una muta davanti al microfono che non si vede nemmeno. Ok, attenzione, telefonata, allora, di tensione. Ok, qui sta squillando, di come diceva. Stiamo chiamando un influencer. Sì, è un influencer, decisamente. Ma influencer di cosa? Di che argomento? Influencer, non lo puoi descrivere, è immenso. Benvenuto nel servizio di segreto. Non ce la fa, non ce la fa. Ma che cavolo. Non ce la fa, andiamo avanti. Vai, grazie, Gioia. Ci hai provato, Gioia. Ci hai provato. Ci abbiamo apprezzato comunque. Mi viene in mente la sigla di Solletico di mille anni fa. Vabbè, non ve la canto perché era... Io me la ricordo Solletico, c'avevo anche la Polo. Ma nera con l'icona rosa di Solletico. Non mi tocca. Ascolta. Niente, chiamiamo lui che è il nostro uno degli nostri autori, così autore, che non stava ascoltando il programma e non sapeva nemmeno che il tema era quello che aveva proposto lui. Qualcosa di veramente fantastico e meraviglioso che accade solo a Zona Rossa, e sfidiamo chiunque altro programma a farlo, non ce la faranno mai. Però non risponde perché gli ho appena telefonato, capito? No, ma perché è il mio numero, non risponde ai numeri perché sconosciuti. Non risponde ai numeri conosciuti. Vabbè, ma un po' di gente lo fa, ma ci figurati, sta. Figurati, ma se lo chiamiamo tra poco. Vai, attacca al gecchino. Ma dove siamo messi? Intanto c'è un pezzone che sta andando sotto, guardate che... Non se lo merita, Gioia, non ti preoccupare. Io ho capito quello che dicevi, Guglielmo, stai tranquilla, perché... Le ribelli non è che brilli così proprio di luce tua. Ma pensa! Ce l'hanno tutti con Gioia, ma non è che ce l'ha, è che, cioè, davvero qua c'è un accumulo di stronzate su stronzate. Cioè, io ho dei ricordi di una puntata che hai fatto non mi ricordo con chi, che spaccavi incredibilmente, una delle prime, tra l'altro. Con Davide, esatto, sì. Niente, mi sa che è entrato in casa, ha mollato il telefono giù. In casa è a bere al pub. Madonna, incredibile, veramente. Dimmi. Uno non risponde. Se uno non risponde, chiamiamo l'altro. Se uno non risponde, chiamiamo l'altro. Giustissimo. Questa ragazza è svegliissima. Questa ragazza è veramente... Chiamalo tu col tuo. Cosa? Sì che ce l'hai, secondo me. Sì che ce l'hai. L'altro coinquilino, che tanto non starà ascoltando, quindi non è uno spoiler per lui. Aspetta che ti passo il Jax. A Norberto, perché lo chiama Norberto così. Vai. No, non ce l'ho. Non ce l'hai? Non ce l'ha. Mandiamo, la questione problematica. E rispondi tu. Esatto. Posso avere il Jack? Vai, è qua. Questa puntata di Zona Rossa che si sta facendo in diretta, è incredibile. Abbiamo una redazione che non ce la fa comunque. Esatto, ma che non c'è più o meno. No, ma proprio zero. In redazione c'è Cigo, voglio dire. Sta cazzeggiando al bar, giustamente, esatto. Da un certo punto di vista, però anche no. Però torniamo sempre in quella casa, ragazzi, dovremmo volare altrove. Dovremmo volare altrove, lo faremo. Ma se diciamo rizoma, cosa ne pensi? Ma se diciamo rizoma... Rizoma, fra, la risposta è rizoma. La risposta è rizoma. Così facciamo usare anche la chat di Telegram. Tra l'altro, Norberto, ricorda i canali con quelle persone. Ehi, Porcello, qual è il tuo antagonista preferito? Il mio protagonista preferito? Antagonista! Non ho capito. Sono Norbi, babbo. Ma non ho capito la domanda. Non è la domanda. È zona rossa. Va bene. Sono il tuo antagonista preferito. Amore. Allora come stai, bellissimo? Tutto a posto, sto preparando un soffrittino di verdure per cena. Cosa stai cucinando? Carote, zucchine. Sì, ho capito, ma il soffritto serve. Ho capito, tutte cosce. Il soffritto serve per base di qualcos'altro. Sì, ci butterò le verdure dentro questo soffrittino, ok? E poi a parte, farò una pasta. Ok. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sì, ho la tua approvazione. Aspetta, calma. Davide sta chiedendo l'approvazione di Norberto. Hai la mia piena approvazione. Tanto tra poco sarò sotto casa tua, assaggerò. Grazie Norbi, ti aspetto. No, io volevo farti una domanda, Davide, posso? Oh mio Dio! Ci sono tutti oggi, tutti. Ma è uno spin-off praticamente di casa via Viale Molise 32? Più o meno sì, è uno spin-off di Viale Molise 32. Infatti cioè, sono anche abbastanza, cioè anche basta, mica stiamo chiamando solo quella casa lì. Ma perché abbiamo provato a chiamare Ale ma non ci risponde per due volte. Ok, questa cosa ha un nome ben preciso, si chiama colonialismo. L'ha detto. E tra l'altro non lo chiami imperialismo. Non lo chiami imperialismo perché non ti hanno detto che io da domani dormo con te. Ma è meraviglioso, finalmente diventeremo una potenza mondiale che si farà rispettare, insomma. Finalmente. Dai, adesso... preparo il risico allora. Esatto. Sarebbe bellissimo una partita a risico stanotte. No, Norby, veramente stai venendo qui? Sei preoccupato adesso? No, perché mi sta venendo la bava alla bocca, cioè, ho bisogno di un contenitore tipo adesso. No, non sto venendo lì, ma prima o poi verrò a fare un pranzetto con i fiocchi, con le mie manine d'oro. Dillo come ti dico. Prima o poi vengo. Dai. Prima o poi vengo. L'ha detto. Vabbè, ma per la puntata di oggi cosa fate oltre a rompere i coglioni? C'è una domanda che ti farà gioia. Allora, ne ho due. No, gioia basta. No, allora, gioia no. Davide, aspetta. Io ne ho due di domande. Sì. La prima... Vai, ci siamo. Se mi lasci delle verdure da parte, che è importante. La mia risposta è no. A me le lasci un pochino? Lorenzo, a te ti lascio la pasta con le verdure, sì. Grazie. Ma gioia no. Vabbè, evidentemente ci sono delle preferenze. Beh, sì. Ma come è giusto che sia? Ma vabbè. Allora non lo so se devo farti la seconda domanda, però visto che sono magnanima te la faccio. Vai, gioia. Sì. Trema con tanta ermoscia, come mi è uscita adesso, perché la domanda è questa. Te la ricordo? Sì. Te la ricordo. Vai, gioia, vai. Allora, la domanda è, che cosa hai spedito l'ultima volta con le poste? L'ultima volta che ho spedito qualcosa con le poste. Bravo Davide. Cosa avevi spedito? Raga, era un 2 di marzo. Ha risposto? Non abbiamo sentito. Il fumo, raga. Ma l'ha detto. Ma come hai fatto? Serviva per mio fratello. Insomma, eravamo lontani e... La famiglia prima di tutto, comunque. Sempre è successo, è andata così. E non ci sono stati problemi tipo airport security? Ti hanno bussato a casa dei tipi? Stiamo avendo delle ripercussioni legali che durano ormai da anni e anni. Ma che idea è spedire con le poste il fumo? Ma Davide, scusa. È stata la prima cosa che ho pensato non ho avuto idee migliori. È andata così, raga. Possiamo proprio dirlo che non hai avuto idee migliori. Ma è stato in quel momento che... Ale, è arrivato Ale, ve lo passo. Vai, è arrivato così. Ale! Non potevamo fargli lo scherzone. Sì. Lore, scusa, ero io proprio mia mamma. Ho capito, però io ho bisogno. Dai, sacco di polvere. Mi scappa anche la pipì. Vai Ale, dai, parlo io invece tua. Cosa c'è che non va? No, è che sei in diretta su Zona Rossa, Radio ZM. Benvenuto Alessandro. Ciao Ale. No vabbè, questa casa è un bordello, raga. è scappato in bagno. Dovremmo fare un reality show tipo su Viale Molise 32. Ma le telecamere sono già attaccate. Poi devo fare la prima serie fra un anno. Sì, ma e non sai dove sono, okay. Dai. È presente quel puntino che non si lava mai della tazza del cesso? Esatto. Quello che tu passi tanto la cosa ma non si lava. Perché quell'inquadratura ci piace particolarmente. Già. Vabbè, è un porno reality allora, cioè, non lo so. Sì, è così. Poi ti mettiamo in contatto con Maya che ha fatto la puntata sul porno terrorismo, così magari, che io non ho ancora ascoltato. No, vi ringrazio, sto a posto così. Ma cos'è, un giudizio di sorta sulle ribelli? Scusami, Davide. Stai attento a quello che dici. No, vabbè, ma no. Perché dobbiamo parlare per forza di questo? No, assolutamente. Teniamo alle poste, Davide. Teniamo alle poste. Avrai spedito qualcosa alle poste almeno una volta nella vita? Senza rischiare vent'anni di galera. L'abbiamo già detto, scusa, ma sono un cretino. Abbiamo detto il fumo. Va bene, grazie Davide, ciao. Va bene, è stato un piacere, ragazzi. Vi aspetto per cena. Facci chiamare da Ale. Facci richiama Ale che richiami noi. Ma come Ale che richiami? Dimmi. Raga, c'ha una fiatella da ubriaco, quindi secondo me Ero al telefono con mia madre. Stanno compà, dai. Vabbè. Alle 5 e mezza. Il numero ce l'avete, e comunque è evidente al fatto che impedire alle 5 e mezza, quindi a vostro rischio e pericolo. Sarà fatto, grazie Davide. Bella raga. Ciao. Ciao Ne. Uno sano in quella casa non lo trovi. Doveva passarci anche Anker, ma a posto. Vabbè, Zona Rossa va avanti, in qualche modo va avanti. Io non provo a chiamare l'altro. Sì, allora Paul, ho capito. Domani puoi venire a studiare in aula studio a ZAM. Stai tranquillo, sì, la bombola te l'ho presa. Non toccare. Sì, va bene. Ma fa sempre così tutte le volte che li inviti. Ma poi oggi è peggio. Prima mi ha chiesto se gli vendiamo Fergi per 4 euro dei pacchetti di Sizze. Ma ti rendi conto? Ma mi offri così tanto per Fergi? Esatto, ma sei pazzo, pacchetti di Sizze vanno più che bene. Ascoltare, dammi qua il jack, che sta gente veramente non ha capito niente. Proviamo di nuovo. Riproviamoci, è online, se non risponde adesso che è online lo meno male, cioè voglio dire. Gioia, dove stai andando? Ah, ok. Ah, ecco. Meno male, Gioia, che non vai. Dai, la prima puntata in cui parli così tanto. Che fatica a sentirti. Hai fatto i soldi? Hai pubblicato un libro per caso? Ubriaco. No! Non ci credo. Ma fra, ubriaco. Ma sono le 19:44. Come hai fatto? Da quando è che bevi? Cioè, da pranzo che stai bevendo? Da ubriaco. Fra, io lo terrei una mezz'oretta. No, voi siete in zona rossa, ma qua siamo in zona gialla da ieri, quindi. Ma no, noi siamo in zona gialla, anche noi da ieri. Sì, ma voi, vabbè, c'era un gioco di parole del cazzo, scusate. però era bello, l'ho capito. Ho pensato oggi di cambiare il nome in base ai colori dell'Italia, però no. Cioè, già... Sì, se comincia a cambiare il colore a seconda di PCM vari, esatto. La gente non capisce più un cazzo, vi scambiano per una pagina seria. Ma veramente, non sia mai. Non sia mai. Vabbè, ma quindi avevi dato tu l'idea per questa puntata e ti sei dimenticato di ascoltarci e persino di risponderci, ma va bene così, è zona rossa. A questo punto, quanto è zona rossa questa cosa? No, vero, tantissimo. Tantissimo. Ma la domanda è, ma tu cosa stai spedendo ancora con le poste? Dai, fatti un minimo di autopubblicità. Cosa sto spedendo? Sì. Quel poco che rimane della mia dignità da essere umano. Non è tantissimo allora. anche se alle poste, adesso posso dirlo ufficialmente nell'etere, che alle poste, in coda alle poste muore l'umanità. Sì, cioè, quindi quel poco sì. C'è miseria umana in coda alle poste? Cosa succede? Non c'è umanità in coda alle poste, ci sono vecchiette che ti prenderebbero a bastonate solo per fare un mese in più. Mi immagino queste scene incredibili. Okay. Però oggi nella chat della redazione, sbaglio o avevi prenotato e non c'era nessuno? Certo, perché è esattamente questo il contrappasso, no? Cioè, nel senso, vai lì tutti i giorni perché ci devi andare, non puoi prenotare perché è impossibile. Il giorno che prenoti non c'è nessuno, quindi non è servito prenotare perché entri. Mentre se non prenoti devi farti un'ora/2 ore/ disagio umano. C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. C'è un complotto. Vabbè, è una punizione. Lo sento. È una punizione karmica. Sì, della Carnia, in quel senso è una zona del Friuli Venezia Giulia, quella roba lì. Sì, è un posto bello, dai, si va a camminare un sacco. Ma senti, Fra, dai, su, cerca di essere serio 7 secondi. Cos'è che stai spedendo? Parlaci del tuo libro di cui parleremo a Kazan prima o poi. Allora, innanzitutto, non spedisco il libro io. Ok, e quindi cosa fai te? Io spedisco le stampe, NCLN, tutte le varie cose. Oddio, tra l'altro... quei bravi ragazzi, quelle brave ragazze di Vitagrama, che sono un laboratorio di serigrafia, hanno giusto appunto finito di stampare oggi una nuova serigrafia molto romana, diciamo. Attenzione! Che vi invito ad andare a vedere. Sì? Delle stories di Instagram. Attenzione! E sarà disponibile nei prossimi giorni. In numero limitato, è numerato in sole 20 copie. E sì, e quindi materiali NCLN vari, eccetera. Devo spiegare per l'ennesima volta cos'è, cosa non è, no, o facciamo finta che... No. C'è Norberto okay, che sta andando a guardare adesso la pagina Instagram, sta mostrando, poi manderemo sulla chat di Telegram. C'è Norbi? Ci sono, tesoro! Amore! Come stai? Ti manco un po'? Che voglia di abbracciarti. È vero, anche ti voglio abbracciare. I ribelli non ce l'hanno, Roberto. No, non ce l'hanno, Roberto. Ma, ti dico una cosa, così facendo finta che stiamo parlando solo io e te e che non ci stanno ascoltando circa 752.000 spettatori. Debe, io potrei essere a Roma a breve, te lo dico. Oddio! Ma è incredibile. Ma ti serve ospitalità? C'è posto, eh? Ti ho due letti matrimoniali per qualche strano motivo in camera. E io però dormo in quello che ci sei tu comunque. Oh. Vabbè, sento certo, che... questo era scontato. Sento che sta arrivando un invito anche per me, Guglielmo. Saremo molto lieti di accettarlo. Grazie, grazie, siete grazie, gentilissimi. Grazie, verremo grazie, anche noi. Prenderemo un letto matrimoniale per noi. Grazie. Esatto. Va bene. Offerte, ma ok. Comunque, raga, cioè, zona rossa con Norberto diventa zona rossa per Norberto. Cioè, sono offerte sessuali molteplici che arrivano. Però da compagni, ma siamo sicuri anche da compagne. Tra l'altro, Gulli, e te lo dico anche a te, Fra, così mi dici cosa ne pensi. Stavamo proprio pensando che potrei fare un programma da solo. Sì. E sarebbe, si chiamerebbe tutti pazzi per Norbi. Ma che bello! Ho già preparato la pagina Facebook. Francesco, cosa ne pensi? Finalmente un programma radio in cui qualcuno ha voglia di rispondere. Bravo, diciamolo. Allora ci penso. Guarda come ride. Ma no, facciamo con... dipende quanto sei molesto. Può esserlo tanto. La molestia è abbastanza fondamentale, da quanto ho capito, su Radio Zam. No, solo per il nostro programma. Solo la molestia in senso buono, in senso buono. No, ma anche quella in senso buono solo per zona rossa. Devi ascoltare gli altri, non c'è paragone. No, è qua la gente viene a cazzeggiare. Esatto. È l'unico programma dove la gente viene a cazzeggiare. L'unico programma che viene a cercarti come la Digos. Esatto, bravo. Però volano i complimenti stasera. E vai. Maledetto, non ti facciamo più le recensioni sul tuo libro in uscita comunque, non te le facciamo più. Come no? Ma no, non è vero. Deve vagliare. Non volevate far finta di essere seri? Ma infatti, noi adesso, cioè, te la dobbiamo mandare ancora. Adesso, appena quell'altro, quello che non è Norberto, finisce di leggerla, anzi, finisce di imparare a leggere, perché non so se gli hanno insegnato in quel di Novara. Quando impara a leggere, poi mi stanno chiamando da un'altra parte. Giulio, facciamo così. Ma che cazzo vuoi? Ok, dicevamo. Va bene. Te la dobbiamo ancora mandare. Te la dobbiamo ancora mandare, ma arriverà. Non aver paura. Va bene, dai, allora direi che ti abbiamo sfrantumato i cabasesi abbastanza, grazie mille Fra. Gioia, vuoi dire qualcosa a Francesco? Ciao. Niente. Ho notato un lieve sdegno, c'era del lieve sdegno. Ma non è vero. Ho visto male. C'è dello sdegno. Ma no. Va bene, lo accetto. Va bene. Dei messaggi alla chat di Telegram della radio. Mi sto cucinando il tofu con la Silvia di Zam. Con la salvia di Zam. Grande! Madonna. Però che schifo il tofu. Concordo. Però... Raga, che schifo il tofu. Cioè, meglio mangiare il cartone. In che senso, Francesco? Di che cartone stiamo parlando? Tutti i sensi. Dall'imballaggio. Drogati e ubriachi. Va bene, non voleva rispondere. Due sensi. Non voleva rispondere, adesso non riusciamo a buttare giù il telefono, è incredibile. Sembra come va bene, va bene. Ma metti giù prima tu o metto giù prima io? Metti giù prima tu. No, metti giù prima tu. No, dai, metti giù, ciao Francesco, è stato bello, ciao. Ciao, ci rispondono ciao, sempre ciao. Dalla chat di Telegram, veramente che schifo il tofu. Ma no, ma la stessa persona che lo sta cucinando. Bello, bellissimo, potremmo chiamare anche lei, ma forse non lo faremo. Tra l'altro la stessa persona che... Aspettate, ma... Ah, ma c'era scritto Michelle Obama o sbaglio? Sì. Ok, lo sta cucinando nella cucina di della Casa Bianca. Esattamente. Non più, è vero. Scusate, sono rimasto indietro di un paio di legislature, scusate. Ma tranquillo, che problema c'è? Vabbè, ma quindi chi vogliamo chiamare adesso? Vogliamo chiamare una persona. Risponda di Milano, non so, chiamiamo... Oh, attenzione, vediamo se risponde. Se è troppo giovane, abbiamo capito, da quello che è il standard Cigo, nessuno spedisce più. Tu, Norberto, hai spedito con le poste? Io, sapete che sono un romantico, ma non ho mai spedito con le poste, neanche con l'elettronica, perché non spedisco di base. Io spedisco, ricevi e basta. Io ricevo e basta, chiaro, sì. Lui riceve amore. Che è un ricevitore. La caporedattrice di Zona Rossa! Aspetta un attimo. Vai. Ciao! Direttrice, cosa succede? Ciao! Cosa sta succedendo? Ciao. Chi stiamo salutando? Allora, salutando Sabina. Ciao Sabina. Ciao. Come? Chantal. E Tillone. E? Piantal. Sabina, Piantal e? E Zillone. Salve Zillone. Zillone, puoi salutarci? Wow. È un animale? Buonasera a tutti. Buonasera. Scusa, ma il nome sembrava simpaticamente essere... Scusate. Quadrupede. Gli chiedo un'immediata scusa. Ciao ragazzi, io sono Schiantale. No, volevo avvisarvi che siccome Zillone è l'unico essere umano di sesso maschile all'interno di questa congrega di stronzi, è ovvio che stia zitto e non dovete rosicare, perché lui sta zitto. Che sta subì, perché il tamarro... Ok, scusate un secondo, ragazzi, e per soggetti individuali che siete in quella stanza. Allora, noi pensavamo di fare una sorpresa, ma mi sa che la sorpresa ce la state facendo voi. Esatto. Cioè, esattamente cosa sta succedendo lì intorno alla nostra direttrice somma galattica dell'iperuranio di Zona Rossa? Allora, noi siamo a... Andiamo a bere grappa! Beh, tutti a bere, noi facciamo radio, dovremmo essere a bere anche noi. Solo noi siamo sobri, più che altro. Ok, no, fa... noi no. Noi comunque no. Stiamo ascoltando Liu Refrain e siamo Lili Refrain. Sì. E Gulli, non so se questo era veramente il tema della serata, ovvero il safe space, ma in questo momento mi sento in un safe space. Allora, non era questo il tema. Cioè, la frase io è una vita che sogno dirlo. Il capo sei tu, quindi decidi tu. Se vuoi che questa puntata sia successa, io ho deciso. Cambiamo e facciamo. Io ho deciso che questa puntata qua deve un po' andare nella direzione del safe space. Ciao Iaffi. Ciao la Rap Caverna Post. Al piano sotto c'è. Sì. Esatto, non noi. Non allora, noi. Se volete salutare qualcuno oggi in studio c'è Paul Kalkbrenner. Non so se vi interessa. Avete presente? Norbi, sei ciao, tu. Sono proprio io. No, Norbi. No, comunque sei d'accordo? Non so se sarà quella di stasera o quella di un'altra sera, ma di fare una puntata sul safe space, perché io e Gulli abbiamo avuto uno scambio molto interessante che forse non sarebbe il caso di condividere pubblicamente. Chissà, meglio di no. Chissà, però... dipende da cosa vogliamo fare. Per me non c'è problema. Però non c'è problema. Parliamo di uno space safe. Le poste italiane. Space safe è fatto. No, no, le poste italiane bisogna chiamare Francellis. Cioè. Già fatto. C'è un dettaglio. Anche Fra era ubriaco marcio. Per cui c'è cioè, questa cosa. Ed era le poste? Non era le poste. Non era ancora le poste. Ma era tornato dalle poste. Okay. Ma cosa fa sembra alle poste? Gliel'avete chiesto? Forse è il suo safe space. Esatto, forse il suo safe space. Esatto. È proprio quello che sosteneva Norberto poco fa. Era quello che stavo dicendo. Esattamente quello. Ah, ok. Scusa, Norberto. Però potremmo convertire la categoria del safe place con una domanda. Qual è? Non sto riuscendo a dire una volta la cosa giusta. Safe space, ragazzi. Safe space, non place. Qual è il tuo safe space preferito. Esatto, esatto. Qual è il tuo posto sicuro preferito? Diciamo in italiano, che sennò ci impastiamo la bocca. Ma lo chiedete a me? Alle persone che sono lì, perché abbiamo capito che c'è un grande cervello collettivo e vogliamo che questo gruppo ci dica. Diteci voi. Ok, adesso ve lo diciamo. Vai. Allora, per me, per quanto mi riguarda, cambia costantemente. Cioè, ma non proprio costantemente. Qual è il vostro safe space, non please, safe space. Sì, vai, space. Va bene, quella roba per di me in questo momento. Per me in questo momento è casa di Sabia San Daniele. Oh, bello, bene. Per cui ci vogliono delle montagne, tanti amici e amiche, delle modeste quantità di grappa e del prosciutto, giusto? E del prosciutto e del vino rosso, raga! Il frigo di Bidulis. No, il frigo della Bruna. Il frigo della Bruna. Rotto. Beh, comunque, rotto un bicchiere. È una bella situazione. Della Bruna. E poi il safe space della Sabia. Vai, casa di Chantal. I boschi. Tutti, a prescindere. Quando sei in un bosco ti senti sicuro? Un bosco che conosco in realtà, okay. Perché è un bosco. E casa mia. Bene. Che è anche il mio safe space. Ok. Grande. Altre persone che sono lì che vogliono dirci qualcosa? Se hanno voglia. Casa mia. Safe space, casa mia. Ho tutto. Ok, che parla però, presentatevi perché questa è la mia logorrea. Io sono Schiantal. Ciao Schiantal. Ciao raga. Una domanda banale, ma Schiantal è l'italianizzazione di un nome francese o è il tuo soprannome perché hai l'abitudine di frantumare degli oggetti contro degli altri oggetti? Compro una vocale, la C di cazzo. Ciao. Una vocale tu? Non ho capito. Tanto, però ho comprato una consonante, ma è meglio che non si sia sentito. Va bene, ok. Ok, la prossima ragazzi, persona che c'è lì con voi che vuole dirci qual è il safe space, ci dica. Parla lui! Se non dici tennis club, fa correre. Il mio safe place direi che è il tennis club vicino al mio paese, dove nonostante le zone rosse, gialle, arancioni o... fucsia, andiamo a bere in 10 persone giocando a tennis da sbronzi la notte. Bravi, giusto così. Ma scusa, non diciamo dove. Esatto, non diciamo dove perché veramente certe non persone non ci interessa che lo sappiano. Va bene così. Ma quindi scusami, cioè mi pare di capire dall'accento che tu sei più o meno di quella zona lì, se non sbaglio, del Friuli. Si può dire che siete la zona del Friuli Venezia Giulia, Italia del Nord-Est. Sbaglio assolutamente, io. Sei di zona. No, hai ragione. Inta Iglesias. Non ho capito. Maldi. No, vedi, ormai Anita ha iniziato a utilizzare dei termini friulani che non ha recuperato. Noi stessi friulani non capisco. Pensiamo che sia friulano, in realtà è una mezza ragazza londinese che è arrivata qua 2 settimane per la friulano. Che storia. C'è anche del meticciato culturale. Gulli, volevo dirvi che no, niente, vi voglio bene. Grazie. E vi voglio bene. E mi fa piacere che in questo momento di merda, in cui appunto la gente pensa, come appunto ci siamo detti io e Gulli, che il safe space sia una roba che per noi è l'opposto del safe space, ci sia della gente come voi e non ridete, dai. No. Era Paul Kalkbrenner, scusa, tedesco, non capisco. Vai, no, e stavo dicendo che appunto in un momento in cui c'è gente vicino, tra virgolette, a me che pensa che il safe space è una cosa e io in realtà ho l'idea opposta di questa cosa qua, comunque c'è gente come voi che ha la mia stessa idea, no, non è vero, non la mia stessa idea di safe space, però che mi sta vicino e vi voglio bene, alla prossima puntata di Zona Rossa verrò lì come ospite speciale. Grazie. Basta, chiudi tutto, spegni, andiamo. Grazie per la puntata, grazie mille. Seguite i podcast. Grazie Anita. Grazie Anita. Gulli, comunque Sabi ha chiesto se voi siete le rivali di Zara. No. Sì, ce n'è una qua. Esatto. Anita, no. Ma perché siete? Perché le ribelli sono meglio, forse. Sì. Anita, ti prego, dille che non è così. Che cosa? No, le dico che voi siete meglio. Ah, ecco. Ma noi ribelli? Sì, voi ribelli, ovviamente. Ah, ok. Allora, la nostra direttrice è così umile. Io pensavo ci stessi difendendo. Col cazzo. Ma che merda, ma che... Vada, veramente. Ma che termini sessisti. Che termini sessisti. Ragazzi, chiedo se siete le ribelli perché Ani guarda il telefono e fa... Ah, mi stanno chiamando le ribelli di Zam. E però, cioè, sento un po' di... Tipo, no, di... io ho detto di buona la grappa. ma ragazze, persone che siete lì, noi vi vogliamo molto bene. Abbiate cura della nostra direttrice. Comunque, rendetevi conto che Anita è la nostra direttrice. Cioè, lei detta la linea, come vedete. Cioè, noi avevamo un'altra domanda che non abbiamo nemmeno fatto perché è Anita che decide cosa dobbiamo fare noi. Ma lei quando la chiama... Qual era la domanda vera? No, non possiamo fare, la direttrice ha detto che si parla di sé. No. Qual è? Anita, mi dica lei cosa devo fare, direttrice. Ci dia degli ordini. No, allora io dico che secondo me... Ma avete chiamato qualcun altro prima? Sì, un sacco di gente, che cosa gli avete detto a questa gente? C'era una domanda della puntata, prima che venisse ovviamente cambiato il programma. Esatto. E quindi cosa fate adesso? Chiamate altra gente e gli dite che avete cambiato programma? Sì, ma non glielo diciamo neanche, gli facciamo direttamente la domanda che ha ordinato la direttrice. Esatto. Ovviamente. Va bene, allora... sono orgogliosa di questa cosa e... Buonasera. No, però aspetta, fateci la domanda. Ok, allora la domanda la vuole. Vai Norbi, vai Norbi. Dunque, rispondete uno dopo l'altro tutti, vai. Esatto, per tutto. La domanda è: qual è l'ultima cosa che avete spedito utilizzando le poste? Ok, io... No, attenzione, non si può non dire. Io la dico, però, cioè, non mi ricordo bene, nel senso che penso che l'ultima cosa che ho spedito con le poste era una cartolina ai miei nonni, ma che avevo tipo 12 anni probabilmente. Poi dopo ho spedito Cigo. Un libro a un mio amico, ma non l'ho spedito io, cioè l'ho spedito tramite Sabi, che è qua alla mia destra. Infatti, probabilmente l'ultima roba che lei ha spedito è il mio libro che io ho dato a lei, che lei ha spedito al nostro amico di antropologia culturale. Bello. Interessante. Molto bene. Sabi, io sono schiacciata e ho spedito e ho spedito magliette CD del mio gruppo. Quindi il gruppo, fai della pubblicità, vai. Ma esatto, guarda, se riuscite a capire il nome, vai. Quasi vincerete un CD. Attenzione. Che è una minaccia, certo. Attenzione. Beyond in Green. Siamo un duo, facciamo d'estate, sì, quando facciamo le grigliate, ci chiamiamo di Hunting Grill, ma anche in inverno, quando siamo qua a fare le braciole, tipo sulla cucina legna e varie specialità friulane. Bello. Invece normalmente ci chiamiamo The Hunting Green, che vuol dire appunto il verde infestante, che non significa che siamo dei promotori della marijuana, ma peccato. Anche implicitamente, volendo, si potrebbe anche esserlo. E niente, no, insomma, è un duo, siamo in due, batteria, chitarra, e facciamo metal oscuro e evocativo, che ecco. Bello. Niente. Bellissimo. Quindi ho spedito magliette, CD della band a gente che... Ma senti, sì? domanda brutta, perché e sono anche arrivati, Ah, minchia, figo. Beh, importante. Anche ha funzionato, raga. Guarda che noi, oltre a fare la radio e fare in radio le cose che ci dice Anita, nostra somma direttrice, si è lodata. Loda la direttrice? Sempre. Bravo. Grazie Anita. La cosa è che noi mandiamo essenzialmente tipo 24 ore al giorno musica, per cui se hai voglia di mandarci qualcosa su Telegram... canale della radio, va bene tutta la vita, però raga, però è musica un po' non è proprio molto allegra, quindi ma va bene, ma figura, ma sapesse cosa ho messo io in radio, guarda. Esatto. Preoccupare. la chat della radio è radio zam _ chat su Telegram, ci passi su Telegram pure. Mandaci pure gli MP3. Esatto. D'accordo, dai, fatta. Grande. Ok, Anita, Sabi fatta. Ci manca Schiantal. manca Zillone. Vai, Zillone. Che non lo voleva dire, ma adesso lo dice. Cosa hai spedito per l'ultima volta? È che è un discorso un attimo complicato, andrebbe spiegato bene. C'è di mezzo del tennis, secondo me. Un pazzo, letteralmente, a dirla così, direttamente. Vai, fai il pazzo. Devo... No, ma non... Dai, allora, dai. Guarda che dovremmo... in realtà, Zona Rossa, sottotitolo, che a noi piacciono le storie complicate. Se vuoi dirlo, se non vuoi dirlo, di una cosa a caso. No, le bugie senza problemi. Vai. Cosa ho spedito l'ultima volta? Sì. Una pistola salve, beretta 92 FS. Ma spediscila anche a noi, scusami, non ho capito. Attenzione. Non ci dispiacerebbe affatto averne una. Ma come mai? Qua c'è una spiegazione, perché sono in possesso di questa cosa, sì, e perché l'ho venduta poi, questo è il discorso. Okay. Allora. Vai. Sì, ho fumato. Nelle mie zone, qua dove si trova Anita, io sostanzialmente cosa possiedo? Un metal detector. Okay, e quindi vado nei boschi col metal detector. Certo. E vado in determinate zone dove ci sono abbastanza... Cioè, la prima guerra mondiale a trovare riperti, giusto? Esatto, cercare okay cose. Solo che ci sono i boschi e io pensavo che... Cioè, pensavo, ci sono cinghiali, ci sono animali, non certo è che... Cioè, se vai lì, comunque vado anche... Vado anche di notte a girare per questi boschi e quindi per sicurezza personale magari. Esatto, una pistola a salvo, una scacciacani, fai un colpo e scappano. Il problema è che nel 2015, se non sbaglio 16, in Italia è cambiata la normativa, abbastanza grave, perché poi è andato a inficiare anche la produzione dei film effettivamente. Ossia, cosa è successo? Dal 2015 in poi tutte le armi a salve, anche quelle di scena, dovevano essere solo con lo scoppio laterale. Cioè, tipo, tu anche in un film, a meno che non ci siano permessi particolari o cose, non puoi fare uno sparo e vedere lo sparo che esce dalla pistola, anche se è finta. Non è possibile. La normativa è cambiata. E prima che cambiasse, dato che avevo la pistola a sparo frontale, l'ho rivenduta prima che cambiasse la normativa, in modo tale che la quotazione fosse abbastanza alta. Bravo. E l'ho venduta più soldi di quanto l'ho comprata. Grande! Perché effettivamente di cinghiali non ce n'è molti, poi vabbè, ho anche qualcos'altro che mi porto dietro per difesa personale, quindi non serve la pistola salve, che non serve a niente se non fa lo scoppio, certo, e quindi l'ho rivenduta. Ma più pensate alto che del prezzo è incredibile. Ma veramente, raga, è super interessante. Cinque, qualche mese prima che cambiasse la normativa, e quindi sì. Sai che hai anche una bella voce radiofonica, sai che ospitiamo programmi se vuoi proporre qualcosa. Ma è tutti. È un po' modesto il ragazzo, non vuole ammettere di avere una voce bellissima. No, comunque... però voglio dire che io non spedisco mai niente. Ok, era un caso eccezionale. No, l'ultima volta che ho spedito sta roba è stato 4 anni fa, era una pistola a salve a sparo frontale, purtroppo... È così, però veramente non voglio sembrare un maniaco, ma era semplicemente per proteggermi dagli cinghiali di notte, però non serve perché i cinghiali qua non ce ne sono tantissimi. Ok, a questo punto chiedo scusa, abbiamo finito le persone, i soggetti individuali in quella stanza, o ci sono altre persone che ci devono dire qualcosa? No, ne manca una. No, ci sono 3 gatti. No, avete finito i soggetti, cioè ci sono appunto 3 gatti e un cane, ma non penso che abbiano qualcosa da dire. Magari da non dire. Ho spedito niente, ecco, poi da cosa da dire. Ma scusate, ma voi posso chiedervi che cosa avete spedito? Ah, attenzione, giro, inizia gioia. Beatrice, vai. No, vabbè, io l'ho già detto in apertura. Io ho inviato a settembre un libro in Germania ad una mia collega dell'università che le serviva per studiarci sopra e quindi gliel'ho inviato. Molto banale. Utilità, ma esatto. Banale, utilità. Vuoi bene una persona e spedisci qualcosa, ci sta. Sì, no, abbiamo fatto uno scambio, anche lei mi ha inviato un libro che mi serviva. Che libro ti ha inviato? Che libro le hai mandato? Uno di macroeconomia. Lei ti ha mandato il libro di macroeconomia e Anita chiede, tu che libro le hai mandato? Sì. Cosa? No, non me lo ricordo. Non si ricorda cosa ha spedito, direttrice? Non si ricorda? No, aspetta, non sento niente, cosa che hai detto? Allora, la questione è che Gioia non si ricorda cosa le ha spedito, mentre amica di Gioia gli ha spedito il libro di macroeconomia. Allora, Gioia mi può spiegare macroeconomia perché io la sto studiando per il prossimo esame. Quindi gioia, domani torno a Milano. No, no, adesso incominci, fai la prima lezione. Allora, non è che se il libro mi è stato spedito e mi è anche arrivato, questo significa allora che io l'ho letto e l'ho studiato. Non è un'equazione così pari pari. Carriera della divetraia di gioia. Infatti io non l'ho guardata, perché aspetto che Guglielmo mi spieghi. Comunque vorrei far notare che una cosa che ho pensato anch'io e che dicono già dall'altra parte: Gioia, se un po' ci dà la stasera, e non rispondermi così in questa maniera, stanno dicendo dall'altra parte. No, stavo dicendo che stasera mi sento un po' aggredita. Però davvero, la mia pippi. Come osi, la nostra direttrice, la facciamo finire nel naviglio? Norberto, vai, spezza sta cosa e vai avanti e racconta tu cosa hai spedito l'ultima volta. Allora, è vero, dai. No, comunque, aspetta. Prima che Norberto racconti cosa ha spedito, io e Gioia facciamo pace. Non la rossa unisce. Manita, ma non c'è neanche bisogno di fare pace. Noi siamo unite per la vita. Addio! È bellissimo. Dichiarazione importante a Zona Rossa. Zona c'è Rossa amore, è terapeutico. Amore. Zona Rossa è amore. Vai Norberto. Quasi candidiamo Zona Rossa al Nobel per la pace. Bravo. Oh mio! Bravo. Direi che ci siamo. A ritirarlo va Anita, che voglio dire, fa il suo figurone. Certo. Ultima cosa spedita, il Nobel per la pace, esatto. No? Certo. Io vado a ritirarlo. Io ho detto prima che non ho inviato nulla. In realtà, ovviamente, da bambino avrò inviato sicuramente delle cartoline usando le poste, ma per l'appunto sono anni che non utilizzo le poste per mandare nulla. Ma chi le inviavi le cartoline? Ai miei parenti, principalmente. Che bugiardo! Io li credo. Vai Guglielmo. Va bene. Allora, io l'ultima cosa che ho scritto con le poste è stato un... No, aspetta. Vai. Aspetta, ho paura. Di che cosa? Paura. Di cosa hai spedito? Paura. No, Madonna, addirittura. No, vabbè, allora. No, io... paura. Non ho spedito paura. La paura. No, non aver paura. Io ho spedito in realtà una cosa che, come al solito, descrive bene la persona immorale quale sono. Niente, a un certo punto avevo un'amica che sperava diventasse un'amica un po' speciale, ma che poi in realtà non è successo niente. Come al solito è stato mandato in bianco brutalmente. Ma tra i modi per cercare di creare un ponte con questa ragazza che era andata a Bologna per lavoro anni fa, penso 8 anni fa, gli ho spedito un pacco contenente dei regali. E dato che ci eravamo conosciuti a un corso di box, gli ho regalato delle fasce, dei pantaloncini, cioè della roba che avevo lì che non usavo mai. Ho detto, vai, proviamo a fare questo regalo. E poi dopo quella roba lì, lei non ha mai più voluto vederti, immagino. No, mi ha ringraziato, le ha anche usate. Ci sono foto che testimoniano che le ha usate, però alla fine della fiera non ho beccato niente, direttrice. Vabbè, ma fa niente, ma è il gesto che conta. Però le poste sono state il mio cupido. Io e Norberto siamo con gli occhi a cuoricino. Gioia si è pietrificata, non si capisce perché è senza cuore. Grazie Guglielmo, grazie. Grazie a voi. Mi ha fatto proprio il cross, perché l'ultima cosa che ho inviato io con le poste è una lettera d'amore. Oh sì. Quella è proprio nella busta. Sì. Cioè, che meraviglia. Bello, bello. Me l'ha lanciata Guglielmo, vedi com'è amore Zona Rossa. Vedi come siamo simili. Diamoci il 5 fra. Grande. Andiamo avanti, vi ma siete comunque no. Sì? Manca qualcuno, mi sa. No, siamo in quattro. C'è un calorifero con noi. Vogliamo sentire cosa dice calorifero? Finito. Ti giuro. Finito. Giuriamo. Va bene. Allora, adesso le prossime persone che chiamerete, quindi cosa gli chiederete? Qual è il cosa hanno spedito? E poi cosa hanno spedito? Esatto. Tutte e due, vuoi tutte e due? Sì, tutte e due. Ai tuoi ordini. Agli ordini, direttrice. Però a questo punto le possiamo chiedere un favore, immensa direttrice chiarissima. Sì, certo, onestissima. Certo. Può piazzare un qualsiasi device audio e collegarlo e ascoltarci, se ne ha voglia, così verifica che stiamo facendo effettivamente quello che ci ha chiesto. Sì, va bene. Si può fare, sì. Grazie mille. Ma perché ridete? Cioè, è solo Gioia che ride, perché è il suo modo di... Oh. Gioia stasera mi prende in giro, si prende il gioco di me. No, è Paul Kalkbrenner che le sta facendo solletico. Direttrice, aspettiamo lei per una spedizione punitiva sulle ribelli. Entriamo e massacriamo. No, che spedizione punitiva. No. Quella la facciamo da altre parti, va bene? Amico. Ecco, bravi. Va bene? Perfetto, siamo già capiti. Amico, sì, dai. Amico. Andremo e faremo. Va bene. Mettiamo della musica per lei, direttrice. Va bene. No, però aspettami, scusami, io non c'è, cioè, nel senso. Sì. Mi venivano vicino le gambe. Oh. Sì, ci siamo, ma ci siamo. Che sono un po', cioè non sono molto sul pezzo su queste cose. Adesso come faccio a collegarmi? Devo andare a prendere il link su Facebook? No, allora, direttrice, lei sa già, perché no. Forse le è sfuggita la mail, perché giustamente lei ha cose più importanti da fare che ascoltare i suoi sottoposti. Praticamente, se va sul sito di ZAM, che è zammilano.org, c'è sezione zam-altomilano.it, però fa niente. Okay. zam-altomilano.it. Se va sul sito c'è una fantastica vocina che è Radio ZM. Se apre la tendina, ma certo, ma io sono, guardate che mi avete messo tra gli amministratori, eh. Ah no, quello era su Facebook, però non, ma comunque va bene, ma va bene, va bene, fare quello che vuole, direttrice. Lei è la direttrice. Beh, insomma, se lei apre la pagina, c'è il player che pigia play e ci sente in diretta. Se va invece su Radio ZM, trova anche la pagina del sito con tutti i podcast di Zona Rossa, in caso venga voglia di controllare cosa hanno fatto i suoi sottoposti. Ma appunto, sappiamo che lei ha da dirigere e da fare cose importanti, e noi invece siamo, c'è un amico di Cafarra. Ok, perfetto. Mi raccomando, allora ci ascolti, direttrice. Si raccomandi. Si raccomandi. Paul, ciao. Va bene, puoi venire, Paul, vieni, dai. Ci vediamo tra poco. Ciao. Una canzone super romantica che Paul ha voluto dedicare a me, a Norberto in particolare, ma alla puntata che sta venendo estremamente romantica. E sì, quello che diceva Guglielmo è giusto, soprattutto la puntata 28, cosa vorresti cambiare del tuo corpo con una cosa meccanica. Io personalmente non l'ho ancora ascoltata, non vedo l'ora, perché una bomba atomica, una bomba atomica, è una bomba, quindi grazie Paul, puoi mettere il disco. Io adesso No. Prego, a breve, prego. A breve accompagnerò Paul all'aeroporto, perché parte, e saluta tutti e ci, ciao, vediamo. Paul. Ci mancherà. Ciao, quindi, Paul. Quindi se lo prende Fergio, no? No, per stavolta no. Per stavolta, che palle, per stavolta ma no. Via. Per stavolta no, ma ho avviato una trattativa. Ho avviato la trattativa, esatto, con la casa di produzione di Kalkbrenner. Adesso vediamo cosa si può fare. Grazie a tutti, Zona Rossa vi saluta. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. In the palm of your hand, as long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. Trying to make things right when it all turns wrong. Grazie Paul, grazie mille, è stato un piacere. Norberto ti saluta, è andato a prendere una boccata d'aria. Norberto fra pochissimo torna. Zona rossa, una zona rossa veramente particolare, veramente emotivo più del solito, è incredibile. Esplosivi, emotivi, belli, impossibili, bello, impossibilu, questa zona rossa è tutto questo e anche di più. È soprattutto un programma casaccio, stiamo chiamando una collega di Comunità Nuova, ex collega oramai. Vuoi il pugnetto, Gioia? Vuoi il pugnetto? Ha avuto un'idea. No, ho avuto un'idea. Ha avuto un'idea e lo dice con labiale. Cioè, benvenuto nel servizio di segreteria. Intanto arrivano degli splendidi messaggi sulla radio di Zam. Attenzione. Sulla radio della... Ma io continuo a dire la radio, cioè... La radio di qualcun altro. Oggi Telegram non mi piace. Tu, chiamo io? L'ultima cosa, ci arriva un messaggio, l'ultima cosa che ho spedito per posta è stato un flacone di merda. Ma in che senso? Cioè, bellissimo! Dopo chiamiamo questa persona, esatto, che stava cucinando il tofu prima e non le piace. O forse no, forse no. Facciamo in modo che ci racconti tramite la chat cosa ha Facciamo detto, in modo dai. Che ci racconti, quindi ti chiediamo, ascoltatrice, ma in che senso? In che senso? Beh, intanto qua sta squillando. Brava. Grande Gioia, prendi il timone, vai, brava, naviga, vola, vedi le stelle. Però l'orario... Sì, ha smesso di squillare? No. No. È un po' delicato, no, l'orario. Ma Zona Rossa insiste proprio. Sì, sì. Cioè, è così, insiste. Insistenza che non è corteggiare, perché noi non corteggiamo nessuno. Vogliamo soltanto avere dei racconti. Assolutamente. Sì. Amore libero e sconfinato. Esatto, per tutti e tutte. Comunque, cioè, questa telefonata... Praticamente, cioè, può mandare in crisi il mondo intero. No, no. Beh, quasi, ecco. Oddio. Torna indietro nel tempo. Attenta. Più che altro viaggia nello spazio. Viaggia nello spazio, bellissimo. Perché va, vola, sì, e arriva in Germania. Attenzione, attenzione. Dai, niente, provo io, è andata male. Niente, no, non si può fare. No, ma perché poi, chiamandolo con quella modalità lì, va a squillare all'infinito, non c'è la segreteria. Vabbè, quindi, ci speravo comunque. Però, sarebbe interessante chiamare una persona e lasciare lì che suona ore e ore. No, a me piaceva più quello che è successo prima per sbaglio. Il mio è proprio spento, addirittura. Vai, stiamo facendo il giro di telefonate, intanto la storiella. La storiella. Aspetta un attimo, Gioia, sei il tecnico il per segreteria. Segreteria. Intanto la storiella via Telegram va avanti e ci rispondono. Vi ricordiamo che è stato scritto: l'ultima cosa che ho spedito per posta è stato un flacone di merda. Ci rispondono alla domanda in che senso? In senso reale. Ho messo un po' della mia cacca in un flacone e l'ho spedita per posta per fare il test del microbioma intestinale. Quindi capisci che per posta puoi mandare anche le tue feci. Bellissimo, bellissimo. Ma è incredibile. Potremmo spedirle a persone importanti. Allora, sto chiamando sempre un altro ex collega di Comunità Nuova, posto che mi ha pagato degli stipendi nonostante me. Questa cosa è veramente incredibile. La nostra direttrice ci chiede chi stiamo chiamando. Allora, direttrice, noi stiamo chiamando persone che le altre due persone in studio non conoscono, dato che ci siamo resi conto che chiamiamo sempre le stesse figure. Esatto. Ho detto, no, dai, usciamo da questa solita cosa. Facciamo in modo che risponde la seconda. E ci stiamo spingendo verso un sacco di segreterie telefoniche. Perché? Prossimo giro, prossima corsa, andiamo avanti. Abbiamo capito intanto... che stasera che se non Gioia, no, non mangi. Va bene che ti vuoi fare le ovaie tue, però contribuisci a questo giro di giostra questo... e pensa, io adesso chiamo, non risponderà neanche a sto giro, vai, quindi tocca a te. Qualcun altro. Beh, sennò... Attenzione squilla. Carissimo, sei in diretta su Zona Rossa Radio ZM, benvenuto. Benvenuto. Ciao Paolo, come stai? Bene, avete scelto quello con i tempi meno radiofonici. ma non è vero, ma ti abbiamo disturbato? No, no, peccato, no. Peccato perché zona rossa è anche questo. Niente, chiudi la telefonata, dai, Lorenzo. Comunque, non mi ricordo se già sai, ma la nostra fama molto spesso non ci precede, perché no, è giusto così. No, no, zona rossa è un programma di telefonate in cui noi tendenzialmente chiamiamo l'orario peggiore, ma poniamo anche delle domande. Ci sono delle domande. Attenzione. Ci sarebbero delle domande. Che ti fa gioia che è qua stasera per caso? Sì, è vero, sono qui per caso perché volevo cazzeggiare. Esatto. E quindi mi hanno accolta e eccomi qui. Allora, la domanda di oggi. Intanto sono due le domande. La direttrice ci ha imposto due domande. A tua scelta, una dai delle che due. Te la ricordo. Allora, la prima io non riesco a pronunciarla. No, la prima che abbiamo creato noi di domanda. La prima, ok. Se, fagli okay. Quella domanda lì. Allora, la domanda. Una delle due domande è. Adesso vediamo se. Vai, non ti preoccupare, tu falla. Allora, che cosa hai spedito l'ultima volta con le poste? Cosa hai subito l'ultima volta? No, cosa hai spedito? Ma se vuoi sì, anche cosa hai subito? Se hai subito qualcosa dalle poste, zona rossa e servizio pubblico, ti sosterremo. Ma no, ci sono file chilometriche. No, cosa ho spedito l'ultima volta, direi, a memoria... Bah, un libro, una volta mi ha mandato, col lavoro mi ha mandato a spedire un libro da lì. Ah. Però, e quindi a chi l'hai mandato? Libri, tecnicamente... A chi l'hai mandato? Non lo so, a qualche giornalista sicuro. Ma non ci tenevi molto al pacco, in poche parole. Hai dovuto farlo per lavoro, punto e stop. Sei andato lì, fila della Madonna. Sì, così. Non c'è una storia piccante. Cioè, non che una domanda prometta chissà quali cose... Ma a noi ci piace scavare nella vita quotidiana perché si annidano delle cose meravigliose. Abbiamo per esempio scoperto la storia delle armi a salve stasera. Perché qualcuno ha spedito una beretta. Esatto. Esatto. Bella storia. No. Ho sentito di recente che puoi seguire merda se vuoi. Bravo, ci è arrivato un messaggio. Esatto, ci è arrivato un messaggio di una persona che ha spedito della merda. Cioè, capito? Queste cose si possono scoprire con la domanda. In prima persona non penso, magari non so servire, non so. Ma questa persona l'ha mandata per delle analisi, ha dovuto spedirla via posta. Ah, ecco. Okay. Ci stava, però. Tu pensa agli incaricati della posta che maneggiavano questo pacchetto, lo lanciavano così. Cosa poteva succedere in un attimo? Era catastrofe. Ma vabbè. Spero che l'abbiano aperto. Esatto. Ma senti un secondo, invece la seconda domanda ci viene perché abbiamo chiamato la persona che dirige il nostro programma, perché io e Lorenzo siamo dei cialtroni, Gioia qui per caso, per cui non c'è nessuno veramente che segue questo programma se non Anita, che è la nostra direttrice. E ci chiedeva lei di chiedere alle persone che a cui avremmo telefonato qual è il tuo safe space, il tuo posto sicuro, il posto dove sei proprio a casa, senti benissimo, stai bene, non può succedere nulla di sbagliato, mai. Bella domanda, però, cioè, escludendo diciamo la casa, che mi sembra la risposta più triste da dire, uscendo dalla casa, appunto, direi la collinetta dell'Ambro. Oh, bello! Sì, sì, lì proprio, cioè, a parte quando ho sentito a 15 anni dei canti, tipo il latino di sera. Oddio, cos'era? Cos'è successo? Era del... Ma non lo so, praticamente era della gente vestita di bianco, noi ci aspettavamo il capretto in mezzo, ma in realtà era credo una cerimonia, una fricchettonata. Ma noi c'eravamo anche di sotto, eravamo saliti 5, 6, 14 anni in banda a esplorare. E poi il primo si è svoltato, spaventato e senza capire cosa succedesse, tutti gli altri sono scappati, alcuni rotolando dalla collina. Madonna, che bellissima scena però. Quindi no, a parte questa scena, sempre sicurissimo come posto. Quindi gli risponderei così. Ottimo. Mi sembra un po'... com'è che si chiama il film, quello dove i bambini camminano lungo la ferrovia? Aspetta, ce l'ho. Dai, ce l'ho. Senti, Paolo. C'è anche Gioia. Io non ce l'ho. Dai, quello famosissimo. C'è anche la canzone jazz. Con la jazz blues, non lo so. Dai, come si chiama? Ricordo di un'estate. Sono loro che poi vanno a vedere, trovano i cadaveri. Com'è che si chiama? Vabbè, comunque è stata la vostra esperienza che vi ha reso grandi. Avete provato il terrore per una cosa ignota e siete sopravvissuti. Giusto? Esatto. Che storia. Grosso modo così. Grazie, Paolo. Grazie mille. Ti vogliamo bene. Grande, ti faremo sapere qual è il titolo del film. Va bene. Se poi va non è diretta ma in lieve post, velocizzate per due, è tutto più. Non ti preoccupare. Grande Paul, poi ti rispondo alla mail. One love. Ciao bello. Sempre con calma. Ciao. Ciao. Stand by me, bene, cazzo di cazzo. Madonna, merda, no! Appena messo giù, è incredibile. No, questo non è editato in post-produzione, lo garantisco personalmente. Mi lascio i messaggi audio per il futuro. Esatto, porca paletta. Di quando ascolterò. Allora, attenzione, perché adesso la persona che vorrei chiamare è online. Attenzione, attenzione, chiama subito, immediatamente. Attenzione, avrà visto la chiamata e si chiederà, ma cosa vuole da me? L'ha già conosciuta. Ah! Pronto? Ciao Lucia, sei in onda su Zona Ciao. Rossa. Oh, buonasera, che piacere, che emozione. Eh sì, è la tua prima volta. Eh sì, assolutamente sì. E come percepisci questa emozione? Cosa provi? Cosa provo? Penso di abbassare la voce della televisione, che mi stavo documentando con un telegiornale. Che noia. Molto... Mi sento lusingata da questa telefonata. Certo, certo, ma infatti guarda che è tutto il giorno che dicevo no, adesso stasera devo chiamare Lucia. È vero, confermiamo. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao. Allora, ciao. Qui con me c'è Lorenzo che è già conosciuto. No, perché sennò sembrava fossi a farti il programma da sola, no? Perché già arrivi qua, cazzeggi, poi prendi le redini e basta, vai, parte. E non esatto. È nemmeno suo il programma. Piacere. Esattamente, perché ovviamente Lucia sa che io faccio parte del gruppo delle ribelli e ogni tanto le spammo tutte le ragazzi, puntate anche, che facciamo. Anche la nostra direttrice saluta Lucia. Noi abbiamo la direttrice Lucia e ci è arrivato un messaggio ora. Ciao che Lucia. Leggerlo. Lui si chiama Anita, la nostra direttrice si chiama Anita. Se puoi salutarla in diretta, okay. Evitiamo di essere bastonati noi. È una direttrice molto severa. Vabbè, comunque noi ti chiamiamo, cara Lucia. Sì, era la mia prossima domanda. Devo sapere come, ma cosa devo l'onore di questa chiamata. Allora, noi vorremmo farti due domande. La prima te la faccio io. Mi devo preoccupare? No, no. Allora, la prima domanda te la faccio io. La seconda, dato che non la so pronunciare, sì. Te la dirà Guglielmo. Ok, spero che io la riesca a comprendere. Sentiamo. Va bene. Allora, la prima domanda è: che cosa hai spedito l'ultima volta con le poste? Tan tan tan tan. Con le poste. Quella insegna gialla e blu. Quelli che vanno in giro con i motorini. Dal 1800 e passa, quelli. Oddio. Probabilmente una cartolina qualche secolo fa. Pim, pim, pim. È già tre. Ma a chi e dove l'hai spedita? Allora, il ricordo non è proprio al 100% affidabile, ma potrebbe essere che l'abbia spedita a mia mamma, quindi a, mm-hmm. a Napoli. Ok. Da dove non saprei dirlo, da qualche viaggio. Comunque si poteva, sì. Lucia, devo dire che in realtà questo non è vero. Attenzione, una smentita in diretta. Io smentisco tutto, smento tutto. Oh mio Dio. Sì. Perché, proprio. Esatto. Quello lo togli direttamente. Esattamente, perché l'ultima cosa che tu hai spedito con le poste, che non è ancora arrivato, è la provola doc alla tua carissima, fantasticissima collega amica Gioia. Ma hai messo il numero giusto, il 32, di Ale Molise, 32. Cap 20137. Citofono 7, settimo questo non interesse. Fa altro che confermare il fatto che è meglio non spedire niente con le poste. Bravo. Più di un mese aspetto che arrivi sta provola, ma niente. Sta stagionando nel reparto stagionatura delle poste, insieme a prosciutti che arrivano da su da Romagna, insieme a un sacco di dolci buonissimi. Arriverà. Comunque noi la stiamo aspettando, Lucia, sappilo, quindi la prossima volta che andrai a fare smart working a Napoli ti toccherà. Assolutamente sì. Che la porto io con me in borsa, la chiudo e la porto. E poi vieni a cena a mangiarla insieme. Esatto, questo è scontato. Che meraviglia. Vedi, Zona Rossa è una cosa meravigliosa perché ti fa pesare che non è ancora arrivato il tuo regalo. Ecco, bello. Comunque, anche Guglielmo sarà invitato. Oh, grazie mille. Grazie tutti mille. Invitati, tutti fantastico. A base di provola postale. A questo punto, la seconda domanda te la faccio io. Ma quella è impronunciabile. Vuole farlo sì. Lorenzo? Dai, Lorenzo, fa te. La seconda domanda, però, te la faccio in italiano. Okay. La seconda domanda è: qual è il tuo posto sicuro? Il posto in cui ti senti più in sicurezza? In cui dici, io qua sto bene. A casa mia! Carina. Ma se invece ti volessi chiedere una cosa un pochino più specifica, cioè un pochino più, sempre lo stesso argomento, ma leggermente diversa. Ma c'è un luogo non fisico? Cioè un concetto, un'emozione, un sentimento, una situazione che ti fanno sentire al sicuro? Allora, quando ad esempio la sera non riesco ad addormentarmi, non capita spesso, ma capita, perché magari sto pensando a qualcosa di brutto, penso ai miei nipoti, ai miei nipoti francesi. Oh, ma sono Carini. Piccolini? Sono già grandi? Ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Ah, ma era un plan praticamente. Ho un fratello molto prolifico. Complimenti al fratello, ci sentiamo di dire. Grande fratello. Sì. Oppure magari li acquista, non lo so come fare. Beh, allora a questo punto noi li salutiamo in diretta, tutti i nipoti e tutta la tribù. Tutti i nipoti francesi, esatto. Sì. E niente, quindi... Dobbiamo dire i nomi che fanno folklore. Ma, ma certo! Leo, Telma, Galileo, Mirko e Yuri. Ostia, ma sono tanti davvero! Ciao raga! Fantastico, fantastico. Sì, un grandissimo bacio abbraccio da Milano. Esatto. Va bene, Pini. Cara Lucia, giusto? Lucia. Va bene, Lucia. Sì. Ci sentiamo presto. A questo punto verrai chiamata tipo 7-8 volte al giorno, non ti preoccupare. Tutto bene. Con le storie dei nipoti. Esatto, ti chiederemo le storie dei nipoti. Grazie, buona serata. Comunque scusami, ciao. Lucia, se posso fare una cosa molto spregevole, cioè pubblicità a questa radio, se vai sul sito internet che si chiama zam-altomilano.it, c'è proprio l'iconcina play, tu premi play, ogni tanto senti gioia, purtroppo ogni tanto senti anche le altre persone, tipo noi che facciamo Zona Rossa. Eh sì. Ma in generale i programmi sono belli, solo questo è quello un po' così, un po' strano. Vabbè, allora se mi segnalate gli orari esatti in cui posso evitare di sentire gioia, proverò a premere. Ma assolutamente, assolutamente. Guarda, se vieni in radio hai spazio, tutto lo spazio per insultarmi, Lucia. Vai, ci sta. Ti aspettiamo. Ti aiutiamo comunque, non è un problema. Grazie, se sono supportata mi guarda. Dai, perfetto, la nostra direttrice ci sprona ad andare avanti perché dobbiamo telefonare a mezzo mondo, se no non ci paga. Bene. Ci paga 50 centesimi, per cui no. Se andiamo col pagamento non si discute. Esatto. Buon lavoro, buon divertimento. Ciao Lucia. Ciao Lucia, domani. Ciao. I milioni facciamo qua. Miliardi, i miliardi. Cioè, là ce la compriamo. Tu. Andiamo avanti con le telefonate. Zona Rossa va avanti. Intanto facciamo gli auguri ai 10 anni di Space is Only Noise di Nicolas Jaar. Compie 10 anni questo disco che sentite in sottofondo, tutto per voi. Una manata incredibile. Quindi telefonata musica. Gioia, hai fatto la tua prima telefonata a Zona Rossa, è sei vero, contenta? Molto, infatti adesso mi sento tutta stanca e molliccia dall'adrenalina. Esatto, quindi... a me capita quando esco, quando chiudo il podcast, la registrazione fisso, mia, sì. Bam, bam, bam, sì, brum. Sì. Crolli a terra. Andiamo avanti. Sto andando a pescare qualcuno a casaccio, ma non so esattamente se trovo qualcuno di giusto. Chiamiamo lui, raga. Oh mio Dio. L'ha detto. Compagno. L'ha detto. Ma vuoto. Oddio. Sì, vado, dici? Faccio dei sospiri. Puoi fare dei sospiri. Intanto ci arrivano dei caldissimi messaggi alla chat. O comunque si sente male oggi, perché si vede che in questo momento Guglielmo con il mento avrà interrotto i circuiti. Si è smentito pure lui. Va bene, adesso stiamo chiamando una persona che non sentiamo spesso, che non abbiamo mai sentito. Lui è uno dei due artefici del birrificio di Zam, per cui servizio di segreteria telefonica. Ci abbiamo provato. Questo è altro, Zona Rossa, totalmente. Una telefonata pronta, se no vado io. Pronta, totalmente no. Improvvisato. Allora, noi l'abbiamo già sentito. Se no, riprovo la persona che stavo chiamando all'inizio. Vai, se è stata troppo lenta. Dai. Ha vinto Guglielmo. Ok, lui era qui fino a qualche secondo fa, probabilmente non se l'aspetta. Adesso giriamo anche un attimino, tipo, oh, ma è successo un casino, torna subito. Dai, rispondici. Ma andiamo avanti a chiamare, io ce l'ho pronto. No, quindi... anche io ce l'ho pronto. Oh, pronto. Quindi gioia. Pronto. Noah. Dimmi tutto. Oh, ciao, guarda che sei in diretta su Radio ZM. Ah, bella. È presente? È contento, per ora è contento. Sei nella stanza, sei praticamente collegato alla stanza in cui sei entrato prima. Sei contento? Ah, sì, dove ti ho salutato. Sì, bravo, sì, sì. Esatto. Adesso ti veniamo a prendere noi, maledetto. Va bene, presentatevi voi che siete qui con me, che magari lo conoscete anche. Allora, ciao. Io sono Lorenzo. E io sono Gioia. Capito? Con che gente vado in giro? Ma no, spiegaci perché eri qua fino a poco fa. Fatti un po' di pubblicità, dai, parlaci di te. Allora, fino a poco tempo fa ero lì per lavorare sui frigoriferi che andremo ad utilizzare nel micro birrificio che stiamo costruendo al terzo piano di Zam. Ma ragazzi, ma quanto è forte! Ma è incredibile! Quanto è forte, bravissimo. E nulla, la speranza appunto di tirare su questo birrificio per insomma portare un po' più di vita allo ZAN e soprattutto della dipendenza da sostanze nella vita di chiunque. Abbiamo Ale. Un obiettivo esatto. proprio chiaro quello esatto. Noi abbiamo delle domande esatto. per te, no, adesso te le fa Gioia. Allora, come dicevo anche agli altri che abbiamo altri, chiamato, io ne farò solo una perché Vai. Ce n'è un'altra che non so pronunciare. E quindi la domanda che io, la mia mente riesce a partorire, nel senso verbalizzare, è: che cosa hai spedito l'ultima volta con le poste? L'ultima volta, allora, l'ultima volta che cosa ho spedito? Penso di aver spedito delle cuffiette. Oh. Attenzione! Cioè? Delle cuffiette, sì. Perché ho avuto avevo ordinato delle cuffiette Bluetooth wireless e erano mal funzionanti e ho dovuto rispedirle indietro al sito, cioè insomma, per farmele cambiare. Ah, ok, era una roba tipo d'affari, c'era tipo, mi arriva questa roba, devo ridarla indietro, cose così. Esatto, esattamente. Ci sta, ci sta. Ottimo, e alla fine quindi te le sei fatte ridare che funzionavano? Sì, alla fine sì, funzionavano. Bene, bene. Allora, noi tre e tutte le persone che stanno ascoltando, che sono tipo 150.000, sono tutte persone contente di questa cosa. Meno male, bene, bene, bene, bene. Ma invece adesso la seconda domanda che ci è stata imposta dalla nostra direttrice Anita, di cui seguiamo fedelmente gli ordini, è questa. Qual è stato l'ultimo, yes. cioè qual è l'ultimo, no? Qual è il tuo luogo sicuro? Cioè il posto dove sei proprio sereno, tranquillo, niente tipo... E se ci sono dei problemi li affronti perché sei nel tuo posto tranquillo, per cui non c'è nessun problema. Vai avanti serenamente. Oddio, il mio posto tranquillo... Beh, tendenzialmente sono una persona che ovunque va mi creo il mio piccolo posto tranquillo. Cioè, non so come dire... Però se dovessi sceglierne uno direi... Beh, casa mia, la mia camera. Ci sta, ci sta. Posto più tranquillo non c'è. Va bene, ci piace così. No, domani mattina 7:45 in officina, tagliamo il legno, c'è da fare, muovete veloce, ma c'è una virilità, ti spezzo tutta la legna e fai il birrificio con i gressini. Lo è un posto certo. sicuro, è molto un posto sicurissimo. Ah, sì, assolutamente. Voglio vedere quando gli lancio la sega circolare accesa, urlando. Cosa succede? Va bene, no, non grazie mille. Ora. È stato grazie bellissimo. Noa. Ti dico, ciao ragazzi, ciao. Buona serata. Ma la mettiamo un po' di musica o... Ma la mettiamo, la mettiamo. Le persone all'infinito. Aspetta, però la scelgo bene. Vai. Dai, datemi un secondino. Gioia, Gioiolo, come Dicami. Va? Cosa vogliamo, cosa parleranno le ribelli questa domenica? Si sa già? Ho fatto una domanda scivolosa. Vogliamo parlare di questo termosifone? È molto bello. No, il problema è che io sono fusissima. Comunque sì, è già pronta, si sta preparando. Ok. Infatti abbiamo chiamato prima Maya che lo accennava che questa vero. Domenica esatto. Cosa che ha detto? Ha detto qualcosa, me lo sono dimenticato perché sono stupido. No, diceva che lei ne ha già preparata una sì. puntata che c'è già stata qualche settimana fa. E per questa domenica ne sta preparando un'altra. E sarà sul body shaming. Sì, un po' il tema è questo. Io mi devo recuperare dei podcast perché ho sentito in diretta tutti quelli che vuoi, c'è il sito che è stato rifatto benissimo. Bravissimo, esatto. Io mi sono sentito in diretta Mamali, quella con Gasparrini, e devo sentirmi anche quella di questa settimana sul hate speech, discorso d'odio. Interessante. Ma invece tipo Zona Rossa è così bello che puoi anche raccontare delle storie molto molto personali condendole come preferisci. Raccontaci come hai perso il tuo lenzuolo. raccontaci il climax che c'è stato nel non trovarlo. Raga, no, climax, davvero. O hai detto Tenet? No, ho detto Tenet. Oddio. Questa è davvero una storia pazzesca. Vai, allora, Gioia. Io sono una persona che si reputa ordinata e comunque si prende cura delle proprie cose. Però domenica era la giornata delle pulizie e avevo deciso di cambiare anche le lenzuola e tutta la biancheria da letto. Quindi cosa faccio? A un certo punto prendo il lenzuolo, lo tolgo dal materasso, lo ficco nella lavatrice. Giustamente. Poi mi sono acceso tutto, eccetera. Vabbè, poi anche lì la lavatrice ha perso acqua. Insomma, disastri su disastri che, vabbè, lasciamo stare. Ovviamente, naturalmente. Poi... Commentati, però, che io so che sono stati commentati dai tuoi coinquilini con un... Quando il tuo coinquilino ha venuto a darti una mano perché stava allagando il bagno, cosa ha detto? Io non c'ero. Non lo so che cosa ha detto. Vabbè, lascia che sei coinquilino all'ascolto, ce lo dirà. Ma niente, no, io ero un coinquilino, ma non c'ero. Lo so, quindi... io ero scioccata da tutte le sfighe che mi stavano capitando. Per cui. Sempre, tutti i giorni. Ma a quel punto tu dici, vabbè, dai, almeno metto il lenzuolo al materasso. Esattamente. Eh, quindi cosa faccio? Torno in camera mia, apro l'armadio dove tengo tutta la biancheria da letto. E lì? Non ho trovato il mio lenzuolo. No! Ed è impazzita completamente. Ma davvero, esatto, raga, io ci sono rimasta di me. Merda, ma perché io ho solo un posto dove mettere le lenzuole, la biancheria da letto. Tra l'altro io ho solo un ricambio, quindi sono povera, mi dispiace, ne ho solo uno. E quindi ero, dicevo, ti capisco, ma dove cacchio l'ho messo? Adesso io giuro davanti a noi tre e alle quattro persone che ci stanno ascoltando in Friuli, anche se forse non gli frega niente, che io ti porterò dei lenzuoli perché io ho un letto matrimoniale. L'ha no, detto. Guarda, Gulli, so purtroppo ho fatto l'ordine da IKEA e anche si lì... Si è venduta, no, l'ho vista oggi. Lore, non te l'ho ancora detto. Non lo so se lo voglio sapere. L'hai pagato tu il lenzuolo? No, alla fine. Sì. L'ordine che pensavo non mi avessero preso. Sì. Ne hai fatti tu, Sì. Hai un sacco di lenzuola adesso. Ora dormi solo con le lenzuola. Sì. Terribile, almeno poi, male che Gioia è incredibile perché per è poveri. La persona che vedo spendere meno soldi della mia vita, non spende un centesimo, niente, vive di niente, non si capisce come. Adesso è arrivata una mazzata da IKEA senza senso e questo è lo spreco di no, Gioia. Vabbè, questo no, alla fine i lenzuoli tornano sempre utili e vabbè, che ci va vuoi bene. Fare? Che ci vuoi fare? È così, va bene. Non hai voluto disdirlo. Ma no, non ci voglio neanche provare, sennò faccio altri casini. Ci sta. Ma senti, ma vogliamo alzare la musica e semini il terrore su questo brano che è una no bomba? Perché ho trovato la colonna sonora, finalmente il vinile lo sto pulendo. Fistine, che è dalla colonna sonora di Climax di Gaspar Noè, che vi consigliamo perché Zona Rossa è anche questo, consiglia cose da vedere. Ma perché Climax, scusa? Perché è la storia di Gioia. Ok. Per la storia di Gioia, le droghe, sì, esatto, che ci stava tirando in mezzo a tutti a caso, cosa del genere. La domanda era perché Climax, dice Climax, infatti perché lei ha detto Climax. Climax. E il film l'ho chiamato Climax. Ma lanciamo parole a caso, non so, termosifone, una cosa così, no? Tenet. Sì. Questa è la colonna sonora tutta per voi, Zona Rossa torna fra pochissimo. Gioia ci sta boicottando subito perché no, il cazzeggio è finito, si è stancata, adesso basta, è sceso tutto, quindi se ne vuole andare. Beh, però volevo provare a fare un'ultima telefonata prima. Vai. Prego, prego, vade, vade, sfrutti proviamoci, zona rossa più che può. Vediamo. Per il suo sano diletto. I suoi scopi così di dubbio valore morale e le sue palette tanto, anche. Tanto che pronto. Ciao Iris, ciao, sei in onda su Radio ZM, zona rossa. Ciao Iris. Ciao. Ciao. Oltre a noi ti stanno ascoltando 300.000 miglia, migliaia di persone. Chilometri, miglia. Sì, sì. Anche metri, yard. Speriamo. Dai. Anche noi, sempre fino alla fine. Allora, immagino che adesso... Cosa debbo l'onore? Allora, no, immagino che tu adesso abbia già portato Malek a dormire. Sì, è andato a dormire già da un po'. Ah, allora prima non rispondevi apposta? No, prima facevo i cacchi miei. Giusto. Come dai, giusto dai, che sia. Però a zona rossa queste cose non esistono, per cui bisogna intrufolarsi nelle vite, nelle case delle persone. Per questo ti abbiamo chiamata, per farti poi anche due domande. Ti va bene? Ditemi, ditemi, vai. Okay. Allora, la prima domanda è: come hai fatto a sopportare Gioia tutto questo tempo? Cioè, dici, come se sei riuscita? E infatti sono scappata in Germania una mi certa. Sa che prenderemo il tuo esempio a un certo punto. Sì, sì, sì, domani, tipo, domani mattina verso le 6. Va bene? No, non erano queste le domande, scusami, stiamo cercando di rompere il ghiaccio, ma io sono personalmente una persona orrenda e Lorenzo invece è una brava persona. Bravissimo. Esatto. Prego Gioia, dai, fai la prima domanda. Allora, dai, la prima domanda è: qual è, cioè, che, sì, qual è l'ultima cosa che hai spedito con le poste? Con le poste italiane? Con le poste. Sì, esatto, anche, con le anche poste. Esatto. Deutsche Post. Deutsche Post, beh, arrivare. No, non potevo... lo so, ho inventato. Okay. Non mi ricordo. Magari mi sa che in Germania erano robe burocratiche, documenti che mi servivano per il sussidio statale, tipo, e in Italia, non mi ricordo, mille anni fa. Ma forse qualche pacchetto natalizio? No. No. No. Ma perché te lo ricordi tu, Gioia? O... No, perché... come prima? Perché Iris, che è mia sorella, per sì, chi ci ascolta. Okay, okay. Ah, ma è incredibile, non l'avevi detto prima! Di solito lei tipo per Natale ci fa dei pacchetti, mm-hmm, e li riempie di cose, di, okay, regalini, okay. Però effettivamente non ce li ha mai spediti, li ha sempre portati con sé. Vabbè, nel lungo tragitto verso l'infinito e oltre per venire a Milano. Italia, ok. Esatto. Scusa Iris, cioè tu confermi che sei sorella di Gioia, vero? O vuoi tipo ritrattare un attimino perché non te la senti, cose così? Cioè ci fidiamo di lei? Sì, fidiamoci, assolutamente. Non mi sembra molto convinta, mi sembra un po' tipo devo dirlo per forza perché sennò è un casino. Ma va bene lo stesso, ci fidiamo. Sì, vabbè. Ma scusami, a questo punto domanda parallela che non c'entra assolutamente nulla con tutto il resto. Cioè, la gente funziona... Cioè, aspetta, ce la posso fare. Questo lo taglio. E a Milano si vedono le poste, ci sono le macchinine delle poste, ci sono i postini che sono vestiti di giallo col motorino, con i colori blu e giallo fosforescente. Cioè, in Germania dove vivi tu ci sono gli omini, gli operatrici, operatori... C'è il servizio statale delle poste, si riconoscibile. Si vedono, fanno cose o non si vedono mai? Sì, certo, si vedono, non sono statali, ma ci sono, e girano qui e sono molto scorbutici certe volte, anche ti lanciano i pacchetti dietro. Ma come mai? Ma perché? Sì. Pagati poco, sicuro. E c'hanno paura del Covid, sì, e devono correre. Hai capito. E come sono vestiti? Esatto, quali sono i colori dell'azienda? Gialli. Gialli anche, anche loro gialli. Gialli fosforescenti, neri, cioè giallo e nero. Gialle e nero, sì, sì. Gialle e blu. Beh, gialle sono blu. Stilosi. Sono più il Parma noi. Esatto, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E va bene, ok. Ma vai, dici ma come mai queste curiosità? Che perché, a perché, chi interessa? Giustamente, come? Ai nostri ascoltatori. Ma gli ascoltatori. Questo è un programma che fate voi. Nel senso che noi ci prepariamo delle domandine, ma poi voi fate il programma. Perché, per esempio, prima sono arrivate. La tua risposta è stata bellissima, ma sono arrivate altre risposte molto fantastiche, molto interessanti. Ma ci sono tantissime altre domande che abbiamo fatto in tantissimi altri podcast che puoi andare a ascoltare sul nostro sito www.zam-altomilano.it. C'è una sezione dedicata alla radio, Zona Rossa è il programma più idiota di tutto il palinsesto, sì, sì, sì. E chiamiamo a un orario indecente senza avvisare. Per tenere compagnia. E fate domande. E facciamo domande. Ah, figo. poi la questione è questo che ci Lorenzo, faccio il trailer esatto, ah, fico. Bravo. Fico. La questione è che Lorenzo ha fatto tutta questa giusta spiegazione quando in realtà la verità è che non ci ascolta nessuno, e per immaginare ascoltatori chiamiamo delle persone così almeno diciamo ehi tu ci stai ascoltando perché stai parlando con noi, quindi ti invitiamo a ascoltare Radio ZM. Gioia ti manderà tutti i link poi. Assolutamente dai, ma tu lo sai che Gioia fa, è autrice di un programma di successo. Sì, lo so. No, lo so, ma purtroppo non ho ancora avuto occasione di ascoltarlo. No, diciamo. Vabbè, Lorenzo, ammetto pubblicamente. Stanno chiamando, Sì, arrivo. Ciao, Gioia. Questo è davvero un colpo duro. Concludiamo così la tua esperienza zona rossa. Che avrai cantato tipo Britney Spears in stanza a 12 anni. No, lei mi sgamava che sculettavo in camera, visto che la ma anche noi. Facevo tutta quella sexy e ci non provavo. Va bene. Iris, non ti piaceva quando tua sorella si sessualizzava prima del tempo? Oh, mi piaceva un sacco, assolutamente. Non vedeva l'ora di vedermi. Esatto. Va bene, allora senti, andiamo con la seconda domanda. Allora, no, non è vero, vai a farla tu Lorenzo, che io parlo troppo. Allora, la seconda domanda è: qual è il posto che preferisci in cui ti senti più al sicuro? O anche se vuoi, un'emozione, no? Com'era? Una situazione, un'emozione. Una situazione, esatto. A letto sotto le coperte, bello, oh, ti piace. Mi sento più sicuro. E un'emozione in cui, cioè, un'emozione che mi fa sentire al sicuro. Una situazione. È questa la domanda. Sì, esatto. Un contesto. In primavera un odore particolare quando torno a casa. Bellissimo, che odore. Dopo essere stato, però non so come descriverlo questo odore. Tipo, vabbè, primaverile. Ok, quindi l'odore dei fiori, l'erba, gli ormoni, l'aria taccandina, gli ormoni. Gli ormoni. Sì, probabilmente un miscuglio del tutto. Ci sa. Ma comunque si sente che è la sorella di Gioia da come parla, eh? Vero? No, vero. Al contrario, sente che Gioia è sorella di Iris da come Gioia parla. Iris, hai una voce molto radiofonica, sai che ospitiamo programmi. Esatto, anche dalla Germania, facilissimo, guarda, abbiamo già fatto. Volte. Potresti tenere una rubrica. C'è una connessione fantastica. C'è una connessione fantastica adesso. Grazie, Incredibile. Siamo molto bravi. Ci abbiamo messo tipo 6 mesi e parecchi scleri con diverse compagnie telefoniche, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Comunque, davvero, Iris, dovresti tenere una rubrica e tutta tua. Sì, sì, dai, sono d'accordo. La voce c'è. Dalla Germania con furore. Di cosa ti occupi, Iris, nella vita? Cosa fai? Oltre che cambiare i pannolini a mio figlio, diciamo che provo a studiare. E cosa studi? Già, in restauro. Ah, beh, minchia. Solo. Fantastico. Sono andata nel paese giusto a studiarlo, diciamo. Ok, si restaura una cifra in Germania? O era ironico? No, era abbastanza ironico. Ah, ok. Vedi. Ma quindi se tu vuoi imparare il restauro per poi tornare in Italia dove c'è un sacco di patrimonio ma pagata dai tedeschi, dalle tedesche, perché se vieni in Italia a fare il restauro mi sa che non becchi niente, giusto? Ma vedremo, mi piacerebbe tornare, sì, ma vedremo. Va bene, perché anche qui non è che... Sì? Dici. No, dico anche qui non c'è mercato per i restauratori come in Italia qua, okay. Vedremo. Ma comunque, se vuoi, il tetto di Zama deve essere restaurato. Esatto, ma anche altre cose in realtà. Una carpentiera ci serviva. Esatto, sì. Io sono qua. Chiamatemi quando avrete progetti. Vai, facciamo una radio carpenteria. Ci sta. È la rubrica di Iris, esatto, direi. Radio carpenteria, va bene, andata. Conquistata, è tua. Io l'ascolterei Radio Carpenteria, esatto, sinceramente. Ah, beh, ma tutti, chi non lo farebbe? Va bene, dai, Iris, allora... Esatto. Dici, stai dicendo? No, stavo dicendo, stavo quando salutando. È che mi fate andare a dormire? Che domani adesso devo svegliare alle 7 che c'è l'idraulico che arriva. E lei lo controlla. Esatto, giustamente. Va bene, allora direi che adesso è un buon momento. Buonanotte, Iris, grazie. Ciao, Iris. Buonanotte. Tanti bacini. Ciao. Ciao. Gioia, è andata bene. Hai veramente rotto le ovaie a una persona con zona rossa. Grande. Sì, siamo stati a una povera madre single. Stiamo dando il pugnetto in radio, un gesto molto radiofonico. Ci siamo dati il pugnetto. Amici, zona rossa Auti, che siete arrivati fino a qui, cosa dite? Siamo soddisfatti? Siamo soddisfatti, abbastanza. Sono passati pure i Franz Ferdinand a salutarci intanto sotto. Quindi, che dire, gioia. Ciao. Ciao. Grazie. Sì, grazie a voi. Ma grazie a te. Grazie a voi. No, guarda, ma vieni quando vuoi. Esatto. Porta anche amici, amiche, Iris. Quando vuoi. Certo, ovviamente. Comunque settimana prossima ci sarà la direttrice super mega ospite, per cui attenzione, attenzione. Quindi una cosa che abbiamo detto inizio puntata, che poi potremmo parlarne anche qua sotto appena stacchiamo, è questo 14 febbraio in cui si pensava di boicottare completamente il San Valentino e passarlo in radio. E si pensava anche di fare delle ospitate, è perché vero. La cosa che stiamo cercando più di tutte, più di tutto il mondo, è di ampliare il nostro palinsesto radiofonico con nuove, freschissime, bellissime idee e programmi. Vero. Quindi, una cosa di cui volevo parlare è anche questo. Si è pensato, poi fateci sapere cosa ne pensate, scriveteci sulla chat di Telegram, di fare delle ospitate, quindi ogni programma inviterà qualcuno che pensa potrebbe essere interessato a sfornare un bel programma radiofonico. Come Zona Rossa noi abbiamo pensato al nostro uomo. Vogliamo minacciarlo? Vogliamo provare a minacciarlo. Vedere... Provare così lampo al volo. Minaccialo, minacciolo. Devo chiamarlo io? Ah, ma vuoi chiamarlo? Ma perché no? Ma perché no? Cioè, sei già attaccato? Sì, no, ma... Io non... Mi sa che il numero... Sì, tu riempi il vuoto perché io non riempio sono il vuoto perché insieme. In tutto questo poi anche altri programmi faranno delle ospitate. Io stavo pensando, se Guglielmo è d'accordo ovviamente, che con Zona Rossa stiamo iniziando con le minacce verso la persona che inviteremo, mentre io invece col programma lettura avevo in mente ad altre due persone che pensavo di riuscire a far incontrare, ovviamente comunicandoglielo, e poi proporgli, facendogli vedere gli spazi agibili, no, di creare un altro programma, perché ovviamente Zona Rossa non propone di fare Zona Rossa a un'altra persona, gli proporrà un'altra cosa, certo, che si inventerà questa persona qua. E io avevo in mente di invitare queste due persone per sfornare un programma che potrebbe essere, secondo me, o un programma simile a Zona Rossa ma serio, quindi non è Zona Rossa, o un programma di musica. Tra l'altro guarda che ci sono anche quelli di Fuori dal Comune che fanno un Zona Rossa ma serio, da tirargli in mezzo, di più. Di più? Sì, guarda che stanno facendo un lavorone incredibile. È vero, comunque. È vero, però... Soprattutto di grafica, devo fare i complimenti al grafico che si occupa delle bellissime locandine che vengono sfornate ogni... puntata di Fuori dal Comune che ieri ha balzato. Ma non ci ha risposto. Non ci ha risposto. Basta. Niente, sì, finisce qui comunque. Finisce qui. È stato bellissimo. Alla fine della fiera sono sempre da soli però. Alla fine della fiera sono sempre... Norberto, è durato un pochino, Gioia, un po' di più del solito. Però potresti anche appropriarti di questo adesso. Beh, quasi sembra che si senta la mia voce, Madonna. Oh, differenza. L'unico pezzo che non dovrò post-produrre adesso è questo. Esatto, adesso sei fuori il compressore. E quindi ora parliamo per 35 minuti dell'ermeneutica kantiana. Allora, tu hai usato un termine che mi ha sorpreso, sono fuori compressore. Bravo, io applico un compressore a ogni puntata. Hai capito? Sì, quattro cose mi hanno detto sui cavi e sull'audio e io quelle che mi ricordo. Bravo. Piaciuto. Insomma, hai visto Tenet? L'hai visto? Sì, sì, no, non ancora, però ma vorrei vedere. Cazzo, sai cos'è che è la cosa brutta? È che non voglio ributtarmi nella scimmia, perché dico, no, se lo guardo poi minchia ci rimango secco. Succede che mese. Altre quattro puntate con la colonna sonora, esatto. Qua di là, giustamente. Però c'è un'altra cosa che io volevo comunicare, entrando a gamba tesa con Zona Rossa, vai. Per lanciare anche un altro regista che secondo me ne è sa. Molto Zona Rossa, ah, ne sa, Zona Rossa. Che vi consiglio, perché si mormora, e oggi è la notizia di oggi, che tornerà dietro la macchina da presa durante l'estate. Chiacchia. David Cronenberg sta preparando attenzione. Un nuovo film, ma non lo ha comunicato Cronenberg, ma l'ha comunicato Viggo Mortensen, con Ostia. Cui ha lavorato diverse volte per Osteria. La vendetta dell'assassino e un altro di cui non ricordo il nome. E ha dichiarato che è probabile che ci sia un ritorno non tanto a un body horror a cui siamo abituati del primo Cronenberg. Scusami, definisci body horror? È tipo un misto tra splatter, però fa paura. Ah, okay. Perché lo splatter a volte non fa paura, non è per prettamente horror. Ricordiamo Planet Terror, esatto. Di Quentin Tarantino. Però come body horror c'è il riferimento proprio al corpo biologico. Ah, okay. Quindi molto spesso sono mutazioni del corpo. Okay. In quasi tutti i film del primo Cronenberg. Cioè, la mosca. Ah, ok, scusa. Vai. No, perché c'era un bellissimo film che ci... bellissimo, forse un parolone, un film molto particolare che ci fece vedere una volta Matteo Follini in alcuni spezzoni. Sì. Era un horror in bianco e nero giapponese, Tetsuo. Muto. No, in cui ci sono delle mutazioni meccanico-biologiche che vengono fuori dagli esseri umani, delle robe veramente, veramente, veramente malate. Delle cose che tipo, potrebbe oddio, essere il regista di Tetsuo, oddio, che è la, il futuro di Zona Rossa. Però okay, manteniamoci. Okay. La dichiarazione di Mortensen è stata appunto che il ritorno del regista a lavorare insieme, quindi con protagonista Mortensen, durante l'estate, un misto tra body horror e un noir. Incredibile, malatissimo, incredibile. Malatissimo. Quindi volevo darvi questa notizia. Potremmo farlo Zona Rossa. Zona Rossa Movie, se seguendo la roba di Italia, ci guardiamo capito, un film, esatto, ci strippiamo e chiamiamo la gente così a dire: oh, ma lei sto film la bomba. Esattamente, esattamente. Bello, bello, così posso finalmente sonorizzare poco dei pezzi di film. Ok. E mandarli in diretta. Sonorizzare? Vuol dire prendere l'audio del film e mandarlo in diretta. Ah, ok. Ma tipo un monologo che ci piace del film. Che è tipo quell'idea che c'hai da sempre di fare comizi d'amore. Sì, ok, esatto, okay, esatto. Riciclare, la parola giusta è riciclare. Esatto, esatto, rubare tutto quello che c'è. Vi lasciamo con Bach. Meraviglioso. Questo non sono io, bravo è Barrocks che dice: rubate tutto, saccheggiate il Louvre, perché l'arte non è originalità, ma è rubare. Rubare e rifare. Fantastico. Fantastico. Zona Rossa vi saluta, buonanotte, 123 minuti. Figa raga, abbraccio, che bomba. Tutto abbraccio. Ciao. Vi lasciamo con Bach e buona settimana.